Allora, ripeto quello che ho detto prima. Allora, prossima, se ci sarà, è quello di situare storicamente e teoricamente il cosiddetto, cioè le vicende politiche, teoriche, politiche e storiche del cosiddetto pensiero operaista Oh, scusa, italiano. io non voglio fermare Dimmi, no, subito il discorso, però. però è meglio così adesso. Ma quello che abbiamo lasciato sospeso l'altra volta, i 2 miliardi. Sì, adesso riprenderemo tutto. Adesso io faccio un percorso lievemente diverso, che parte dall'esposizione che ha fatto la rete di Marx, perché questo sarà l'inizio. Poi affronta, e poi si riconnetterà tutto in un'ultima o penultima cosa, che probabilmente farà di nuovo Loretta e ironia, mettendo insieme differenze e analogie tra il pensiero operaista e il pensiero cosiddetto post-strutturalista. Io oggi già farò qualche accenno a quello, quindi il pensiero francese e della valutazione comunista, diciamo, che io metto dentro sul grande calderone del post-strutturalismo. No, sì, ma scusa, facendo una storia anche della cosa che Vabbè, arriva, non so, intanto non, ho capito, lo so, però non so, però ci si arriva perché sono tutte cose che arrivare, a cui potrà arriva da un punto di vista diverso, quindi sono percorsi storici differenti sì, vabbè, Baudrillard era funzionale per capire la connessione tra valore giunto, valore di scambio e significante storico. Baudrillard ha una elaborazione che già verso la metà degli anni 70 anticipa, ma in maniera non dal punto di vista del pensiero economico, le trasformazioni che stavano avvenendo in quel periodo, che sarebbero sul piano, diciamo, strutturale del capitalismo, che sarebbero state evidenti nei primi anni 80, cioè quello che si chiama post-fordismo o capitalismo della conoscenza, o capitalismo cognitivo, che è quello che stiamo vivendo adesso, ma che era in incubazione già verso la metà degli anni 70 e scoppiato negli anni 80. Però il modo in cui molta di questa gente ci arriva per percorsi diversi. Il percorso che vi propongo io oggi è, diciamo, come dire, totalmente interno alla storia e al dibattito del movimento operaio e quindi delle organizzazioni e dei movimenti della Questo ci permette anche di capire le diverse posizioni dei diversi gruppi, Dovremmo tracciare la preistoria delle posizioni dei gruppi che operarono in Italia negli anni 70 e che in larga misura influenzano in parte anche le posizioni che sono oggi decisioni che una volta hanno preso e che oggi hanno determinato. decisioni e soprattutto elaborazioni, cioè fissazione di concetti, di categorie, di metodi. Quindi saranno centrali, diciamo, sarà centrale l'intreccio tra l'elaborazione che in genere avveniva in quegli anni in riviste, Quaderni Rossi, Classe Operaia, Contropiano, Quaderni Piacentini, La Classe, e poi i giornali dei gruppi politici che si formarono negli anni 70, da un lato, e all'interno, ma più spesso all'esterno, dei partiti politici, PCI e FSI, e all'interno dei movimenti. Allora, per fare questo, però, volevo fare qualche passo indietro, un piccolo passo indietro, e senza mettere troppo tempo, però partire, riprendere alcune cose che aveva detto Loretta su Marx e aggiungere due concetti, soprattutto fondamentali, che non abbiamo messo nel dovuto rilievo forse la volta scorsa, se vale la pena di cominciare. Allora, il primo è il seguente. Per dirla in breve, dal punto di vista dell'analisi della società, che non vuol dire da un punto di vista sociologico, vuol dire da un punto di vista dell'individuazione delle forze sociali concrete e dello sviluppo della società, l'apporto, il metodo di Marx è consistito principalmente in una cosa, in una posizione che bisogna bisogna presentare con la più grande nettezza. Marx è stato il primo pensatore politico e sociale che si è sottratto alla dicotomia preesistente a lui tra descrizione della società, diciamo reale e esistente, Hobbes, Spinoza, e vagheggiamento di una società ideale, Thomas More, utopia, e poi Fourier, Proudhon, eccetera, eccetera, e ha invece indicato un metodo totalmente diverso e totalmente nuovo, che per lui maturava all'interno della filosofia di Hegel, criticata ma non completamente superata da Marx, ma che alcune riletture novecentesche di Marx hanno costantemente tentato di sganciare ancora di più dalla verità hegeliana, che sono le letture strutturaliste di Marx, fatte da alcuni francesi. Questa idea, questo principio metodologico si può riassumere in qualche maniera così. La nuova società che matura, di cui ci sono le premesse all'interno della società capitalista, non è il risultato di una progettazione esterna all'andamento dei fenomeni sociali, ma è il risultato della dinamica sociale interna alla società borghese e capitalista. La nuova, diciamo, società, il socialismo, non è una utopia pensata da alcuni pensatori, Proudhon, Fourier, Saint-Simon, Owen, eccetera, i quali dicono: ah, cazzo, si potrebbe organizzare la città così, sarebbe molto meglio, facciamo così, la propongono gli altri accettano. No, è una dinamica, diciamo, sociale, detta con una formula. Per Marx la società capitalista è gravida della società post-capitalista. La società post-capitalista matura all'interno della società capitalista. Questa è la vera linea, il vero crinale, la vera discriminante tra quello che Marx chiamò, in modo che adesso si può far sorridere, insomma, socialismo scientifico, e il socialismo utopistico di tutte le altre correnti, proudhoniani, saint-simoniani, owenisti, fourieristi. Questo non vuol dire che in molte cose di scrittori, specialmente in Fourier, non ci fossero delle indicazioni anche molto interessanti su come costruire, però la cosa importante è che il metodo non poteva essere quello di dire: no, c'è un progetto di società alternativo diverso, caliamolo, facciamolo vivere. No, è lo stesso sviluppo della società borghese. Diciamo, la formula con la quale Marx riassume questa cosa, che si trova all'inizio del manifesto del Partito Comunista, scritto con Engels nel 1848, è: tutta la storia dell'umanità è una storia di lotta di classi. Poi che il concetto di classe in quanto tale fosse riservato e fosse nato principalmente con la lotta capitalista, diciamo, è vero, ma in qualche modo Marx pensa che tutte le società umane siano sempre state caratterizzate da una dialettica, parola, diciamo, terribile e terribilmente hegeliana, ma che Marx usa, dialettica tra le classi, cioè spinte contro spinte, posizioni contro posizioni, interessi materiali diversi, posizione materiale diversa all'interno della struttura, diciamo, sociale, eccetera. Questo è il principio fondamentale di Marx. Basta che ci riflettiate un attimo e capite subito che però questo principio, diciamo, metodologico, può essere sviluppato in direzioni molto diverse. Ci può essere una lettura di questo principio che dice: bene, se la nuova società matura all'interno della vecchia, facciamola maturare in qualche maniera, non andiamo a toccare troppo equilibri, eccetera. Difendiamoci, facciamo qualche cosa, ma lasciamo che la storia faccia il suo corso e a poco la società socialista ci verrà tra le mani, così ce la troveremo davanti, nascerà in qualche maniera spontaneamente. Un'altra riproposizione è: no, facciamo maturare, indirizziamo le diciamo, tendenze e i movimenti e le diciamo, dialettiche, i conflitti che ci sono all'interno della società, facciamoli maturare con un progetto che sarà tanto più diciamo, efficace quanto più terrà conto delle tendenze reali e quindi non diciamo, pensi di sovrapporre alcuna progettualità campata in aria, diciamo, utopistica, ma teniamo conto di questo, ma facciamo in modo che questa cosa ci sia. Cioè, quindi una più positivista. Tutte e due, una più riformista e una più rivoluzionaria. Una che tende, diciamo, attenzione però, perché poi spesso le cose si sovrapporranno, diciamo, da un punto di vista storico, le due posizioni emersero, erano già chiare nell'Ottocento, perché però erano tra il marxismo e altre diciamo, componenti, l'anarchismo nella sua componente bakuniniana, bakuninista, diciamo, quella principalmente legata alla figura di Bakunin, diciamo insurrezionalista, poneva già questa cosa, ma Bakunin non aveva alcun interesse per il reale sviluppo sociale o il reale sviluppo delle partite. Come dire, Bakunin perseguiva una sorta di ideale di purezza e se lo diceva, per arrivare a bisogna distruggere, prendere, era una cosa importante, distruggere. Adesso poi vedremo alla comune di Parigi come si comportavano entrambi. Quello dicevo, sì. La cosa rivoluzionaria è sempre nell'ottica di una funzionalità della storia. Allora, da un lato, diciamo, comunque la prima posizione, quella che facciamo maturare, la nuova società all'interno della società borghese, senza creare rotture, perché tanto prima o poi il politico verrà fuori, è quella che è stata tipica dei grandi partiti operai, primo tra tutti il partito operaio tedesco, costruiti però dopo la morte di Marx, che avviene nel 1881, negli ultimi vent'anni dell'Ottocento, nei primi decenni del Novecento, chiamati per il partito di importante dei quali il partito operaio, il partito tedesco, fondato anche per e che è la posizione che oggi diciamo, si è detta con una parola riformista. Il riformismo è diciamo questo di oggi, ha addirittura perso ogni riferimento al capitalismo, al riformismo classico dell'Ottocento, della realtà del Novecento, c'è ancora questo riferimento in parte, c'è l'ha ancora detto, perché dice oggi il partito tedesco, oggi è grosso modo diventato come quello della Bibbia o come quello in Italia, grosso modo, mentre diciamo di Linke è rappresenta una posizione tutta democratica più di sinistra, ma sempre nell'alveo di questa idea, perché ormai nessuno pensa alla cultura rivoluzionaria. La seconda posizione invece fu prima diciamo tipica di alcune piccole minoranze dentro i partiti socialdemocratici, tra cui Rosa Luxemburg in Germania, alcuni dirigenti operai olandesi, una parte del Partito Socialista italiano, ma soprattutto, più importante di tutti, la frazione diciamo, che si chiamò poi bolscevica del Partito Operaio Russo, che si scisse da quella menscevica nel 1904-1905, l'anno prima, nel 1904, e che si chiamò poi, e che è quella che fondò poi i partiti comunisti, i partiti cosiddetti comunisti. Questa seconda. In realtà entrambe queste posizioni, sia quella diciamo socialdemocratica, classica, riformista, sia quella comunista rivoluzionaria, parliamo delle insurrezionaliste anarchiche che sono fuori da questa protezione perché sono meno attente, meno interessate alla dinamica sociale e hanno più un'accentuazione sulla libertà del singolo, sulla, diciamo, è sempre un pezzo del pensiero hegeliano, diciamo, l'anarchismo viene in gran parte da un operatore di destra hegeliana che si chiamava Max Stirner, per cui c'è un libro chiamato L'unico e la sua proprietà, che è praticamente il capostipite dei cosiddetti anarchici. Ma dentro il partito, cioè dentro la tradizione da Marx, e che quindi pensava prevalentemente alla dinamica, diciamo, sociale, entrambe queste posizioni sono posizioni che, anche senza volerlo, si richiamano entrambe a un determinismo. Nel primo caso, nel caso del pensiero riformista, il determinismo è semplicemente lasciamo sviluppare le forze, diciamo, diverse, che portano spontaneamente il capitalismo fuori da se stesso, e avremo il capitalismo. Dall'altra parte, la posizione leniniana, e quindi quella che poi sarà la terza internazionale, cioè i comunisti riuniti dopo la rivoluzione russa nella terza internazionale, dice no, ci vuole una, usando una frase di Marx, Marx aveva detto, in Marx ci sono entrambe queste due posizioni, mescolate, come ci sono un sacco di cose, si può trovare negli scritti di Marx sostegno sia per l'una che per l'altra, come dire, posizione. Non è vero che i socialdemocratici erano fuori del marxismo, era un pezzo, era un modo di leggere Marx, di vedere Marx. Marx scrisse durante la Costituzione europea del 1848, poi diciamo, Lenin rischia, eccetera, dice la violenza è la levatrice della storia, cioè non c'è mai stato un grosso cambiamento senza in qualche maniera. Allora la posizione, diciamo, comunista, rivoluzionaria, insurrezional collettivista, diceva occorre l'intervento di una minoranza attiva che orienti la maggioranza e che faccia maturare quelle forze che ci sono già spontaneamente dentro la società, ma che da sole, senza l'intervento di una avanguardia cosciente, non avverrebbero mai. E quindi, ora, anche questa seconda posizione in realtà era una posizione deterministica, perché pensava, perché entrambe, tutte e due le posizioni, sia quella socialdemocratica sia quella comunista, hanno in comune il presupposto che la storia abbia una direzione riconoscibile. In qualche modo, nonostante il fatto che il comunismo, ma anche la socialdemocrazia, abbiano sempre rifiutato di leggersi, di autoconsiderarsi hegeliane, in realtà lì dentro c'è ancora la vecchia filosofia della storia di Hegel. La storia ha una direzione, la storia ha un progetto esplicito, implicito, spontaneo, provocato, levatrice della storia o no, ma c'è un progetto. In qualche maniera, quando Marx dice, Marx scrisse una frase molto bella, disse, era contingente, faceva vedere, si dice, finora non c'è stata storia, c'è stata preistoria, no? Quando finalmente avremo la società senza classi, allora comincerà la vera storia. In realtà questa cosa, e Benjamin lo dirà nel modo più originale, Benjamin è un po' fuori da questa cosa, però in qualche maniera tutto questo ha molto a che fare con la visione messianica del pensiero ebraico, insomma. Questa è, fu il pensiero ebraico che introdusse nel pensiero greco, che combinato con il greco corresse l'idea della circolarità del tempo e introdusse l'idea che il tempo non è un circolo ma è una retta, è una direzione che ha una freccia, che ha un inizio, la creazione del mondo o il Big Bang, se vogliamo stare a cose scientifiche, e avrà una fine. La Gerusalemme che cade sulla terra, la Gerusalemme celeste che cade sulla terra alla fine dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro del Nuovo, diciamo, Testamento, è una figurazione, un'idea che torna in gran parte del pensiero anche laico, illuminista e post-illuminista e marxista e di sinistra. La storia avrà un compimento. La società senza classi, e questo Marx lo dice, questo era non a caso Marx era come dire, ebreo, cioè come dire, questa idea. In Freud, la mitica società senza classi di Marx, tutte queste cose qua sono tutte travestimenti, trasformazioni della discesa della Gerusalemme celeste sulla terra, il paradiso terrestre all'inizio della storia e poi alla fine della storia. Diciamo, quindi attenzione, con tutte le polemiche che indubbiamente, non voglio dire che non ci fossero differenze di posizione politica, c'erano, però dal punto di vista filosofico, entrambe queste posizioni mantenevano come dire, questo presupposto hegeliano, questa, diciamo, come dire, il marxismo, da un certo punto di vista, detto fuori dai denti nel modo più conciso possibile, può essere considerato una filosofia della storia, ha delle componenti che lo fanno, per nostra fortuna, perché Marx era un grande pensatore, ci sono molte cose contraddittorie in Marx, quindi molti altri aspetti della elaborazione marxiana contrastano, collidono con una lettura possibile non hegeliana di Marx, che faccia fuoriuscire totalmente Marx dalla questione dell'hegelismo e che configuri il pensiero marxiano o la sua continuazione non come una filosofia della storia ma come una filosofia della prassi. Ma questo tentativo non venne mai realmente compiuto nell'Ottocento e neppure nella prima metà del Novecento. Quindi il grande duello e la grande dicotomia, la grande polemica e sanguinosa che ci fu all'interno del movimento operaio, non fra il movimento operaio italiano, ma all'interno del movimento operaio, tra opzione socialdemocratica, legalista, diciamo pacifica, legalitaria, e opzione comunista, violenta, rivoluzionaria, insurrezionale da un certo punto di vista, in realtà non ha mai affrontato, diciamo, realmente il tema di fare uscire, di scardinare, di separare il marxismo dalla filosofia della storia. Entrambe erano filosofie della storia, differenti, basate su questo, ma che condividevano lo stesso punto di, come dire, partenza e da quello punto di vista lo stesso metodo, vedevano all'opera delle, diciamo, tendenze più o meno meccaniche all'interno della, diciamo, dinamica politica sociale. Ed è la, diciamo, rilettura marxiana o la non rilettura ma il percorso parallelo di Foucault, di Derrida, quello di Baudrillard che vi ha mostrato l'altra volta l'oretta, ma primo fra tutti è stato il primo pensatore che ha posto è stato Althusser. Degli anni 60, che sono stati Pur Marx, per Marx, e Lire le Capitale, Leggere il Capitale, nei quali si dava per la prima volta una, diciamo, lettura completamente strutturalista di Marx. Il Capitale di Marx veniva letto non come il Capitale, veniva letto le vicende del Capitale analizzato da Marx, venivano lette non come post-strutturalismo. No, strutturalista, Althusser strutturalista, poi quelle di dopo, di Foucault eccetera, sono post-strutturaliste, ma tengono conto in qualche maniera della, non lo citano quasi mai, anche come dire, Baudrillard lo cita, ma sono largamente debitrici a questa lettura strutturalista di Marx, sì, che di Marx, che è quella che ha dato Althusser e i suoi seguaci, il più importante dei quali si chiama Balibar, è ancora in vita, Althusser è morto pazzo pochi anni fa, ma invece Balibar, che è il suo allievo migliore, è ancora vivo. Se siete interessati, è uscita recentemente una riedizione di Lettere al Capitale con il vecchio testo di Althusser e una serie di contributi nuovi, diciamo, di Balibare e altri. Balibare è uno molto interessante, io lo conosco poco, ma insomma è uno che accetta in qualche maniera. Allora, quindi, nella vicenda dello stalinismo italiano, vi anticipo, l'operaio italiano fu uno dei laboratori più importanti dell'Europa, in cui questa tensione teorica si coniugò con la pratica politica e con le credenze, perché l'Italia era uno dei paesi in cui maggiormente, anche da un certo punto di vista effimero, ma però storicamente poi siamo molto molto prolungato, la lotta di classe, cioè la dinamica sociale, si è presentata. Arriva solo la seconda fase. Diciamo grosso modo che ci sono due possibili letture ancora deterministiche, ancora positivistiche o post-positivistiche della, diciamo, dinamica del marxismo, che sono quella tradizionale socialdemocratica, quella comunista che non c'è praticamente più, perché ormai, diciamo, con la caduta del muro anche teoricamente questa cosa si è andata indebolendo. E poi invece c'è un crogiuolo di letture, diciamo, differenti, che io chiamo post-strutturaliste, che prendono via dalla lettura strutturalista di Althusser e la elaborano in modi diversi, che sono già presenti però già negli anni 60, vedremo, anche nello stesso Tronti e nello stesso Negri, cioè anche Tronti e Negri avevano e hanno delle componenti che vanno in questa direzione, mescolate con componenti che vanno. La seconda cosa che volevo aggiungere a quello che ha detto Loretta l'altra volta è che Marx non è stato solo un pensatore politico, non è stato solo un filosofo della politica, un filosofo dell'economia, è stato anche un leader politico, è stato anche un organizzatore politico, ha avuto anche non sempre nella sua vita, ha sempre sperato di farlo, ad un certo punto è arrivato nelle condizioni di farlo, diciamo, con la fondazione della cosiddetta prima internazionale dei lavoratori, fondata a Londra nel 1876. Questa è la cosiddetta prima internazionale, che in realtà dura per pochi anni, perché quasi subito dopo la Comune di Parigi si scioglie, dura meno di 10 anni. Che però nel giro di dal 76 al 71-72, 1876-1872, come dire, per la prima volta mette insieme, mentre localmente nei vari paesi d'Europa stavano nascendo delle organizzazioni operaie che più o meno erano collegate tra loro tramite l'internazionale. In realtà poi Marx muore nel 1881-82, credo. Come dire, prima di poter cogliere diciamo, i frutti di quel, prima di poter vedere, però in realtà il partito operaio socialdemocratico tedesco era stato fondato prima nel 60 o 61 e Marx aveva, però Marx stava già in esilio in quel periodo, stava già a Londra, perché Marx aveva partecipato attivamente alla rivoluzione del 1848-49 in particolare in Germania. Diciamo, ovviamente era stato poi costretto all'esilio perché le polizie degli stati tedeschi lo cercavano. nella sua attività, e quindi poi fu Engels, che diciamo, sopravvisse alla morte di Marx e visse fino ai primi anni del Novecento, e quindi fu Engels che raccolse l'eredità di Marx. E ora però purtroppo per noi scrisse anche il quarto libro del Capitale, che Marx non aveva scritto, c'erano però tutti gli appunti, le cose, eccetera, quindi il quarto libro tale molti anni con la morte di Marx, edito da Engels. Ora, se perché questo giudizio? Adesso ve lo dico. Ora non possiamo evidentemente accusare Engels, no, né di essere tanto stronzo quanto la sorella, diciamo, di Nietzsche, e quindi il quarto libro del Capitale non è esattamente il pensiero, come dire, rivoluzionario. Però Engels tra i due era quello non meno colto, ugualmente colto, e non possiamo fargli una colpa che fosse meno dotato, che fosse meno geniale di Marx, però purtroppo era positivista, lui sì, era molto positivista, era terribilmente positivista, e gran parte della colpa o della responsabilità del come dire, positivismo del movimento operaio tedesco ufficiale, tra l'altro operaio socialdemocratico, non dico l'inglese che andava perché si poi da un bel po' di anni, quello di Engels. Tutta la lettura positivista di Marx deriva da Engels in gran parte. E basta che voi vi leggiate l'Anti-Düring, opera del solo Engels, una delle poche opere scritte dal solo Engels. Engels scrisse due libri molto importanti, uno veramente buono, che è la scrittura del 40 e da Rotti, che è la condizione della pastoraia in Inghilterra, che è il primo libro di, diciamo, sociologia marxista, diciamo, quindi non di una sociologia, ma cui è una inchiesta, un'analisi precisa su quello che poi vedremo, insomma, si potrebbe anche chiamare composizione di classe, che poi vedremo sarà uno dei concetti fondamentali dell'operazione. E l'altro è questo Anti-Düring, invece, che è un'opera filosofica di polemica contro, come dire, l'idealismo, ma veramente terribilmente positivista. Cioè, c'è Comte, c'è più Comte che Marx, insomma. Cioè, quindi c'è una idea meccanica diciamo, delle epoche che cambiano, e una dietro l'altra, è proprio esattamente come a Comte, che aveva questa idea di mettere le mutande al mondo, di fare, diciamo, le cose sono così, cioè, come Hegel, cioè era. Diciamo, il positivismo ha gli stessi difetti dell'hegelismo, cioè, solo che lo fa da un punto di vista più apparentemente scientifico o scientista, però c'ha la stessa mania di Hegel di incasellare le robe negli schemi. Allora, Hegel c'ha la mania degli schemi a tre, Comte anche quasi, o a tre o a quattro, eccetera, eccetera. Anche molte delle cose che scrive Marx sono brutte, noiose, per esempio quelle sulla Cina, sull'India, eccetera, e quelle in cui lui era più influenzato da Engels, o l'Istituto Matematico, sono sentiti Marx copia un cazzo di matematica e ha scritto delle cose pessime sulla matematica, per le nostre fortuna hanno avuto poca circolazione, come Stalin sulla linguistica, e purtroppo le scuole di Stalin ebbero molta maggiore circolazione di quelle di Marx sulla matematica. Allora, qual è il problema che si pose a Marx e che non si poneva alle componenti anarchiche? Perché le componenti anarchiche, proudhoniani e saint-simoniani, e poi dopo Bakuninisti, eccetera, erano totalmente indifferenti e non erano interessati alla dinamica di classe, cioè alla crescita e al rafforzamento della classe, alla coscienza della classe operaia, si intende, no? Come strumento politico. loro erano interessati a far crollare la vecchia società, certo, su questo era, c'era l'accordo con il, come dire, marxismo e con il socialismo, diciamo, scientifico. Ma questo doveva avvenire per loro non tanto in base a degli interessi di classe contrapposti a quelli di un'altra classe, ma in base a un principio generale che l'uomo doveva essere libero, la liberazione dell'uomo, eccetera, eccetera. Quindi Bakunin e Hanson, eccetera, non gliene poteva un cazzo a loro della, di fare, diciamo, costruiamo il partito della classe e quindi facciamo in modo che i movimenti della classe penetrino nella politica, no? Questo fu il grande, la grande, come dire, il grande tentativo di Marx, che Marx perseguì per lunghi anni, lunghi decenni, senza riuscirci, perché non era quello di dare ai movimenti spontanei e anche alle organizzazioni spontanee della classe operaia una valenza politica. Ora invece la lotta politica per tutta l'Europa dell'Ottocento e fino a che Marx visse e anche dopo c'era, non che non ci fosse, la nuova politica era stata inaugurata nell'Inghilterra della rivoluzione cromwelliana, insomma della rivoluzione del Seicento, dopo con la decapitazione, quel breve periodo repubblicano che conobbe l'Inghilterra, perché poi era una dittatura di Cromwell, eccetera, e poi con la rivoluzione americana e poi con la rivoluzione francese, in cui c'era dietro una dinamica di classe, ma i partiti, cioè i raggruppamenti politici che agirono in queste rivoluzioni, prendiamo quella francese che è la più famosa, che è la più importante, eccetera, eccetera, no? Tutti questi partiti non avevano riferimenti, diciamo, di classe, erano partiti interclassisti in cui ci stava dentro, come dire, borghesia, piccola borghesia, proletariato, artigianato, contadini di tutti i tipi, giacobini. I giacobini c'erano differenze politiche, erano più o meno radicali, ma non c'era una... Ora, diciamo, l'analisi di Marx porta Marx, invece, per la prima volta, a teorizzare. Concepita, pensata, indirizzata, progettata e diretta da elementi della borghesia, piccola o grande, cioè borghesia che fosse, erano tutti avvocati, commercianti, gente del genere, i leader politici della nobili che erano passati di campo, erano Lafayette, Mirabeau, Condorcet, l'altro girondino, come tanto si chiamava, non mi ricordo, erano Robespierre, tutti borghesi, ma la mano d'opera, le forze sociali che hanno fatto davvero partecipare, ma prendere di 18 anni, un'altra volta di un giorno, aveva, no, aveva 30 anni, nel 1848 aveva 30 anni d'età. Nel 1848 c'era già il proletariato come classe, perché si era già sviluppata in Inghilterra soprattutto, meno a meno certo di quello. Però la cosa importante è che cosa si sforza di fare? Devono partecipare a questa lotta politica, ma non dentro i partiti borghesi, ma in quanto operai, devono fondare una loro forza politica, devono sostenere da un certo punto di vista, per un certo tratto, le rivendicazioni di democrazia della borghesia, assolutismo. Però poi ad un certo punto devono avere una loro politica indipendente, autonoma. Non si forma in nessun paese d'Europa un partito politico operaio, proletario, diciamo, e quindi non si forma a lungo. Il primo paese in cui c'è qualcosa di questo genere è l'Inghilterra, ma l'Inghilterra per una serie di motivi ha una, come dire, tradizione ultra e mista in modo proprio molto orgogliosa del fatto di essere stata al primo posto, diciamo, assolutista, anche politica, quella del 1630 di Cromwell contro il re. Il paese già allora era quello più industrializzato d'Europa, eccetera. Morale, il movimento operaio inglese è già nel 48, negli anni successivi, è il più forte d'Europa, ma è il meno incline a avere rapporti e soprattutto a formare un partito politico indipendente. Ha dei fortissimi sindacati di tipo molto particolare, le cosiddette trade unions. Ma per esempio un partito laburista non si formerà se non alla fine dell'Ottocento, del 1880, e quindi ci sono dei politici liberali che difendono di volta in volta alcuni diritti, alcune cose degli operai, ma non c'è mai un partito, insomma la classe operaia in quanto tale non scende direttamente nell'agone, come dire, politico, ma partecipa alle lotte politiche in posizione subordinata. In tutti i primi anni di esistenza della prima internazionale, dal 1976 al 1971, le organizzazioni operaie che aderiscono a questa associazione internazionale di lavoratori, di cui Marx era praticamente il segretario, faceva tutto, da Londra faceva tutto, sosteneva i contatti, aveva le cose, aveva le lettere, faceva pagare le quote alla gente, mandava le cose, era proprio, c'era ovviamente un comitato fatto di inglesi più alcuni delegati che quando potevano arrivavano dagli altri paesi, diciamo, dell'Europa, ma queste associazioni operaie non erano dei partiti politici, erano delle qualcosa a metà di, noi diremmo, tra, diciamo, sindacati e società di mutuo soccorso. Soggetti politici. Fino a che nel 1871, alla fine, all'inizio del 1971, succede in Europa un episodio che avrà larga, grandissima importanza per la maturazione politica della classe operaia. E questo episodio è la Comune di Parigi. In breve, in Francia, alla fine degli anni 50 dell'Ottocento, era salito al potere uno pseudo nipote di Napoleone, veramente squallido, peggio di Berlusconi, Luigi Bonaparte, però col nome Bonaparte, insomma, si fa, ovviamente diventa il re, insomma, in qualche maniera, sì, non è una vera monarchia, ma insomma, quasi. Luigi XVI. Quelli sono i re della diciamo, dinastia ufficiale, i scapetini, i re del re Sole, insomma. No, questo, come dire, Napoleone era un piccolo borghese di Ajaccio in Corsica, era un militare, ha fatto guerra, dopodiché diventa dittatore della Francia, prima generale, però c'è una nipote, sì, no, comunque è uno che siccome comunque la caccia... Mentre c'era Napoleone, mentre la scelta di Napoleone... Di questo secondo Napoleone. No? In Francia, chi c'era come... Tra Gigi... E quindi Luigi Bonaparte si innesta sulla seconda repubblica, abbatte la seconda repubblica e crea quello che si chiama un impero, lui è imperatore dei francesi, Emperor de France, imperatore dei francesi. Vabbè, insomma, succede che queste insomma, ragioni geopolitiche si mette in conflitto con la Prussia ha appena unificato tutta la Germania praticamente sotto di sé, ha fatto il Piemonte in Italia, ovviamente la Prussia aveva una forza militare anche molto maggiore del Piemonte, quindi l'Italia e la Germania si unificano negli stessi anni, nel 1860-61. Però ovviamente la Germania già. E quindi si scosa e c'è una guerra. Marx costantemente ogni volta che c'era un conflitto tra gli stati eccetera non è che diceva no gli operai non devono come dire interessarsi, diceva no gli operai devono stare da questa parte contro l'altra eccetera, e nella guerra franco-prussiana o franco diciamo tedesca del 1870 Marx si schierò a favore della Francia perché il suo nemico principale forma politica assolutistica, diciamo nobiliare, lo stato degli Juncker, uno stato razzista, proto-fascista, cioè i prussiani tremendi erano, insomma, quindi quello era il suo grande nemico, era il suo proletari francesi e come dire, tedeschi devono poi diciamo solidarizzare, però dal punto di vista generale noi proletari, parte politica del proletariato, noi, associazione internazionale dei lavoratori, stiamo con la Francia. Ma, e fa una serie di previsioni sbagliate sulla cosa, perché non pensa che, in realtà, l'esercito francese si dimostra una frana, cioè i prussiani sgominano, come quasi sempre in tutte le guerre, sia nella prima, poi nella passano via le truppe francesi, occupano Lorena, Alsazia, che erano posti che loro dimenticavano, Strasburgo, eccetera, eccetera, e arrivano praticamente fin sotto Parigi. C'è una battaglia storica nel 1970 a Sedan, dove l'esercito francese viene sgominato. Napoleone III, questo Napoleone, coglione, fantoccio, che era lì, sconfitto, piglia e taglia la corda come tutti, come hanno fatto poi i Savoia in Italia nel 41, insomma, eccetera, e nel 42. E Parigi si trova praticamente da sola, come dice, isolata, i parigi politici fanno la terza repubblica. Quindi questa terza repubblica però tenta invano di fare una pace, come dire, separata con i tedeschi. A questo punto Marx, rapidissimamente, no? non c'era né internet né il telefono, quindi le notizie arrivavano un po' tardi, però più rapidamente, dopo pochi giorni, ha avuto i primi messaggi, eccetera, cambia posizione, dice no, a questo punto però noi abbiamo finora sostenuto la Francia, però la Francia ha perso, a questo punto la Prussia dice, quindi siamo contro, ovviamente sempre siamo contro i fondi, cioè non è che cambia posizione, dice a questo punto la cosa principale è salvare il proletariato francese dal massacro, eccetera, eccetera. Però non può fare nulla anche perché Marx non ha praticamente seguaci, Francia. I pochi francesi affiliati all'internazionale, che non sono tanti, e tutte le altre associazioni operaie non affiliate non sono di orientamento marxista, sono di orientamento bakuninista o in grande maggioranza proudhoniano, sono dei come socialisti come utopisti, quindi sono dei socialisti come gli artigiani più che degli operai, insomma, più che, però ci sono anche ovviamente gli operai. Però questi personaggi qui, stretti dalla crisi di necessità, fanno una specie di miracolo, fanno la prima rivoluzione proletaria della storia. La Repubblica francese, neonata, appena nata dopo la fuga di Napoleone III, e diretta da alcuni beceri politicanti, borghesi, liberali, uno dei quali di origine italiana, Gambetta, l'altro il più famoso Adolphe Thiers, che poi diventerà uno storico, era uno storico all'epoca, di fronte a, cioè con le truppe prussiane che assediano Parigi e stanno per prendere, come dire, Parigi, non trovano di meglio che fare quasi come un governo, cioè se ne scappano da Parigi e trasferiscono la sede del governo a Versailles. I parigini sono abbandonati al proprio destino, si trovano una merda, si cazzo. Napoleone III è scappato, questi qua hanno appena fatto la Repubblica, erano qua, ci arrivano gli tedeschi, cazzo, facciamo noi, dall'organizzazione della, quindi non c'è esercito, cioè, ce n'è pochissimo, cioè, si trovano nella merda. A questo punto, nel giro di pochissime, diciamo, settimane, tra la fine del 1970 e l'inizio del 1971, il proletariato parigino, il popolo parigino, ma quelli più poveri, quelli gli operai, i piccoli artigiani, eccetera, si organizzano, si auto-organizzano, fanno comitati quartiere per quartiere, si basano su una struttura militare che c'è già, che è la Guardia Nazionale, che è una cosa che la Francia ha sempre avuto, è una cosa che c'era dai tempi della Rivoluzione, una struttura intermedia tra, diciamo, tra i vigili urbani e l'esercito, diciamo, come fosse un corpo di polizia, ma su base territoriale, non era, quindi era la Garde Nationale di Parigi, non quella di Lyon, era un'altra. I bakuninisti tentano, cacciari eccetera, di fare una rivoluzione a Lione, Bakunin va a fare la rivoluzione a Lione, ma sono in 25 persone, li cacciano via in fretta, Bakunin deve scappare eccetera, neanche Bakunin pensa di fare nulla a Parigi, sembra che la situazione sia veramente persa, sia veramente diciamo disperata, non so per fare. Beh, il progetto parigino fa il miracolo, si auto-organizza, utilizza le sezioni territoriali della Guardia Nazionale come centro intorno a diciamo, le cose, elegge una specie di consiglio comunale, ma con delegati revocabili che tutte le sere tornano e riferiscono nell'assemblea della presidenza, eccetera, eccetera, e nel fine febbraio del 1871 dice prendiamo il potere. Di potere a Parigi siamo noi, e c'era una vacanza di potere, c'era un vuoto, non c'era più autorità politica, quindi diciamo resistere all'assedio, procurarsi i liberi, fare le cose eccetera eccetera, i ricchi, e subito il primo giorno, i primi due giorni della cosa emanano una serie di decreti sociali di esproprio delle ricchezze eccetera, cioè in senso direttamente, come dire, socialista, anti-borghese, le ricchezze servono per difendere Parigi, cioè c'è insieme una, anche un po' di retorica del sistema nazionale, ma c'è già una, diciamo, coscienza che i poveri, insomma, la gente che non ha né il potere politico né quello economico, sono tutti prudoniani, ripeto, non c'è manco un marxista che possa, però, diciamo, l'istinto è buono. Questa è la prima rivoluzione proletaria dell'Europa, del mondo, che ci sia mai stata, ed è ammirevole per il coraggio, anche per la scaltrezza politica, per la sapienza, ovviamente. A questo punto però, diciamo, e quindi questa è la comune di la lettura della situazione. C'è una grande, cazzo, prendiamola. Questi qua stanno presi tra due fuochi, evidentemente, perché hanno di fronte o quasi tutto intorno l'esercito prussiano, il quale obiettivamente, come spesso farà, Pierre, maledetti bersaglieri, li accusano di questo, li accusano di essere al soldo dei prussiani. Avete tolto il potere a noi perché volete mettervi d'accordo con i prussiani. In realtà loro firmano un armistizio con i prussiani, ragazzi, perché è l'unico modo. I prussiani intelligentemente, diciamo di quali questi, così intanto facciamo fuori diciamo, l'esercito vero che era rimasto, dopo quello che era, eccetera. Però a questo punto loro hanno due, come dire, nemici. Diciamo, prussiani di fronte e esercito italiano, se volete, legittimo alle spalle. Marzo del 1871, un mese e mezzo, una cosa brevissima. Però in quel breve tempo c'è la dimostrazione di una capacità politica della classe operaia. È la prima volta che la classe, un'organizzazione operaia, cioè un'organizzazione, un gruppo di operai, gruppi di operai, una classe sociale, insomma, il proletariato parigino, prende il proprio destino nelle sue mani, si auto-organizza, si autogoverna, fonda un'organizzazione, una auto-organizzazione politica. Le ultime popolazioni delle ultime centinaia di persone, poco più di 120-150, raccolte contro un muro, e sono compilati e gettati in una fossa comune, i corpi sono trovati, quello più ovvio si chiama il muro dei federati, e che si portava all'esterno di un cimitero che devo registrare all'esterno a Studio Parigi, quindi a oggi c'è questo motore ogni anno. Una volta compagno della comune, sono quelli che hanno. Ripeto, uno si sarebbe potuto aspettare che Marx, diciamo che questo in caso non mi è, manco uno dei noti tutti i coglioni. Invece Marx da Londra capisce bene che bisogna valutare, questa è la prima volta, che questo è il passo che lui aveva sempre dato alla vita. Finalmente il proletariato che entra nella politica attiva, che fa la cosa, e quindi in 4 e 48 mette insieme, stila una risoluzione della protezione internazionale dei, come dire, lavoratori, che secondo me né un pianto funebre né niente, insomma, mette in, diciamo, rilievo, intanto rende comunque onore a quelli che sono stati ammazzati e massacrati da questi stronzi qua, e quindi vai, dice, attenzione, all'inizio della guerra franco-prussiana né Marx né Bakunin, che erano i due principali contrapposti protagonisti dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, avrebbero scommesso un soldo bucato sulle politiche. attenzione da parte dei loro nemici. Tale forma era semplice, come tutte le cose grandi. Essi, i lavoratori, sanno che per realizzare la propria emancipazione e con quella e con essa quella forma più alta verso cui l'attuale società tende irresistibilmente per il suo stesso sviluppo economico, ricordatevi, gli elementi della società nuova che maturano dentro quella vecchia. Essi sanno che per realizzare la propria emancipazione e con essa quella forma più alta verso cui l'attuale società tende irresistibilmente per il suo stesso sviluppo economico, dovranno sostenere lunghe lotte e passare per una serie di processi storici che trasformeranno uomini e circostanze. Finale, Parigi operaia, con la sua comune, sarà celebrata in eterno, come l'araldo glorioso di una nuova società. I suoi martiri hanno per urna il grande cuore della classe operaia. I suoi sterminatori, la storia li ha già inchiodati a quella gogna eterna dalla quale non riusciranno a riscattarli tutte le preghiere dei loro preghi. Che ci sta sempre bene. Insomma, è un grande tema. Vabbè, c'ha ragione, perché quello è l'episodio, quella in nuce, nella comune su tutti, la gran parte dei problemi che si porranno nel secolo successivo e nel secolo e mezzo ormai, diciamo, successivo alla comune di Parigi, in nuce sono già lì dentro, in quell'esperienza, cioè come ti organizzi, come gestisci un potere in modo che non sia esattamente, cioè voglio dire, facciamo un salto, diciamo, storico, l'ondata sovietica, sovietista, adesso purtroppo il nome soviet, purtroppo è come nome comunista, insomma, questa cazzo di maledetto stato burocratico sovietico si chiamava Repubblica Sovietica. In realtà i soviet sono stati sterminati da Lenin e da Trotsky, praticamente appena preso il potere, insomma, non è che, però la rivoluzione russa, sia quella del 1905, la bottica sconfitta, sia quella vittoriosa del 1917, era comunque basata su un, come dire, movimento e delle forme organizzative simili a quelle della comune di erano i consigli, cioè, operai, i consigli di operai, soldati e contadini, ovviamente, perché gli operai ce n'erano tanto nella Russia, erano molto pochi, quindi erano in gran parte operai, erano altri soldati, erano contadini, poi contadini che non facevano i soldati, ma erano organismi elettivi ma costantemente revocabili, in cui c'era un legame continuo tra i rappresentanti e la base, quindi non come la democrazia rappresentativa che tu eleggi il tuo deputato, poi quello come fatto il cazzo eccetera. E l'ondata sovietista consiliarista ci fu un po' in tutta Europa. Nel 1918-19, dopo la guerra, della prima guerra mondiale, per esempio in Baviera ci fu una repubblica in tutta la Baviera, quindi in tutto il sud della Germania, una repubblica dei consigli operai, ci fu a Budapest, embrionalmente in Italia. L'occupazione delle fabbriche alla di Torino era diretta da consigli, cioè non dal sindacato o da partiti politici, ma da strutture, da strumenti e espressione diretta della democrazia. Ora, tutto questo per la prima volta era il modo in cui la comunità si era realizzata, senza come dire, mediazioni, senza protezionismi politici, ma con, diciamo, esprimendo direttamente, fondendo insieme dinamica di classe, appartenenza di classe, quindi attenzione per le proprie condizioni materiali, eccetera, eccetera, e quelli che potrebbero chiamare, la parolata, diciamo, ma insomma, ideali, cioè prospettiva più ampia, insomma, vogliamo costruire proprie cose. Questo c'era già dentro. Già che siamo sulla questione dei soviet, dei consigli, allora però diciamo questo. Il comportamento dei partiti comunisti nei confronti delle esperienze sovietiche o consigliari immediatamente dopo la fine della prima guerra mondiale, cioè ho detto una ondata europea. Prende posizione a parole a favore dei Trotsky. D'altra parte Trotsky nel 1905 era stato il presidente del Soviet di Pietroburgo, Trotsky era stato menscevico per tutto il periodo della separazione tra i due, tra il 1905 e il 1917, ma all'ultimo momento che Trotsky stava esilio a New York, non per opportunismo, credo, ma perché si rese conto, dice no, però devo stare, quindi passò ai bolscevichi, ovviamente i bolscevichi della sua ora non ve lo superarono mai, all'ultimo era quello più difficile, prima della rivoluzione, diciamo tra la rivoluzione, sapete che la rivoluzione fa due tappe, quello di febbraio, in cui prendono il potere i bolscevichi e i socialisti, i rivoluzionari depongono lo zar, e quella del 7 ottobre in cui i bolscevichi rovesciano il governo provvisorio e instaurano quella che loro ma in realtà lo eccetera, e quindi ne sbaragliò dall'interno la portata, ne minò dall'interno la prova rivoluzionaria. La riprova di questo sta che due anni dopo la presa del potere, un anno e mezzo dopo, alla fine nel primo mese del 1920, quando il Soviet dei marinai di Kronstadt, che è il più grande porto, conflitto con una serie di decisioni del governo di Lenin, che era presieduto da Lenin, quindi non, e quindi si rifiutano di applicare c'è un vero dissidio, non è che Lenin dice discutiamo, no, è Trotsky che farà tanto il democratico anni dopo, quando Stalin, non è che dice sì, c'hanno ragione, Trotsky in quanto ministro della difesa, quindi capo dell'esercito, prende le sue valutazioni speciali, va a Kronstadt e stermina il Soviet di Kronstadt, stermina esattamente come hanno fatto i stabiliti per Stalin nel corso della riforma comune. Quindi diciamo la componente A autoritaria della tradizione bolscevica è chiarissima, fino da lì non è solo no, certamente Stalin l'ha peggiorata a Iosa, ne ha fatto un'altra, però diciamo in nuce già nelle posizioni leniniane c'è questa. Le vere correnti consigliariste questo è una rivoluzione russa. Dopo la rivoluzione di ottobre, dopo la scelta di Lenin al potere e la creazione dello Stato russo, cioè, rimangono alcuni soviet che alcuni software tentano di rendersi autonomi e quello di Constance viene sterminato, perché fa una maggioranza di anarchici e viene terminato. Quindi diciamo la componente comunista, diciamo leniniana, leninista, è una componente fintamente consiglierista, cioè gli vanno bene i consigli di fabbrica sino a che i consigli di fabbrica, gli operai, sino a che sono fedeli alla linea. Quando sono fuori dalla linea, in realtà dentro il movimento comunista ci sono una serie di altre componenti che sono e su cui e che ebbero fino dall'inizio una serie di diciamo, divergenze, che una serie di problemi che sono diciamo, ed erano per esempio i consiglieristi diciamo, olandesi, Goethe e Banner, in qualche maniera anche una componente del movimento consiliare di Ungherese, non certo Bela Kun, che era uno stronzo come gli altri, ma alcuni non mi ricordo il nome, ma soprattutto il nome più grande e importante era Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg, fondatrice con Karl Liebknecht, che è figlio del fondatore, di uno dei fondatori del Partito Socialdemocratico, diciamo tedesco, di vent'anni prima, è fondatrice dello Spartacus Bund, della Lega Spartachista, insieme con lei e sono Liebknecht, che poi si trasformerà nel KPD, nel Comunistische Partei Deutschlands, partito comunista tedesco. Rosa Luxemburg ha una serie di discussioni e di polemiche già nel 1905, dopo la scissione, la scissione tra bolscevichi e menscevichi nel partito operaio socialdemocratico russo. Il partito russo era un piccolo partito ed era in gran parte fatto di gente all'estero, perché ovviamente in Russia c'erano di zar, però aveva alcuni intellettuali di grande prestigio dentro il movimento operaio europeo. Vivevano quasi in Svizzera. Il socialdemocratico più famoso, primo di Lenin, chiamato Plekhanov, era gente forte, Bartok, era gente che aveva letto. Quando c'è questa scissione in uno dei congressi tra menscevichi e bolscevichi, notate che il bolscevichi vuol dire maggioranza e il menscevichi vuol dire minoranza, perché in quel particolare congresso Lenin ebbe, non si sa perché, la maggioranza. In realtà lui era minoranza nel partito socialdemocratico russo, quindi poi quando si diciamo, attaccarono erano, come dire, erano molti molti più voti di menscevichi di lui, però lui poi ebbe la fortezza e la funzione e l'istituzione storica, certo, di sostenere appunto i soliti, di sostenere la rivoluzione spontanea, insomma, delle forme più popolari di rivoluzione spontanea, però con questa idea, adesso vedremo teoricamente perché aveva, ci arriveremo, diciamo, prima voglio dire qualcosa ancora per è ovvio che, come dire, quando quindi ci fu questa scissione, bolscevichi e menscevichi, questa scissione andò oltre, diciamo, l'obiettivo valore dei socialdemocratici russi, che era, diciamo, il tipo valore numerico, insomma, no? La forza politica era una piccola forza, però è più grande, diciamo, risonanza del suo movimento. E naturalmente ci furono i pro e diciamo, il contro, no? Gli scatti, quindi i socialdemocratici nel partito, per esempio, i socialdemocratici tedeschi, il partito operaio socialdemocratico tedesco, perché per questa era in genere la denominazione di partito della seconda internazionale, quella fondata da Engels dopo la morte di Marx, dopo la prima si era conspetta, dopo la comune di Parigi, per esempio, quindi la prima nazionale decade, soltanto dopo la morte di Marx, nel 1985-86 si fonda una nuova internazionale, che è tutto, diciamo, socialdemocratica, però Lenin, una volta preso il potere in Russia, fonda una terza internazionale con tutti i partiti comunisti e tutte le scissioni che si fanno dopo la fine l'Europa di competizione la componente comunista che fino a quel momento era stata all'interno del partito socialista sovente e fonda la terza. La Luxemburg, mentre la direzione riformista del partito operaio democratico tedesco prende posizione nel 1905 per i menscevichi e contro i bolscevichi di Salvini, Luxemburgo si diciamo, rifiuta di prendere la rivoluzione. Lenin fu bescamente, si vende in giro per l'Europa che la Luxemburgo è. Luxemburgo è costretta a scrivere, non ricordo per chi a dire, ma lei in realtà si dichiara tra il 1925 e il 1917, diciamo, non dico equidistante, ma insomma né bolscevica né, come dire, menscevica né, come dire, socialdemocratica né comunista, perché fino dall'inizio è convinta di una certa pericolosità delle posizioni bolscevicche. Non è riformista perché come dire, sostiene che la cosa operaia deve in qualche maniera prendere il potere in modo non pacifico, in modo chiaramente violento, però è molto dubbiosa sul ruolo che Lenin assegna al partito comunista, all'avanguardia politica in tutto questo, processo. E quindi c'è una serie di dibattiti, un dibattito a cui partecipa anche Trotsky, e quelle sono, in questi scritti di Rosa Luxemburg c'è più chiaramente delineato che in altri una, come dire, posizione, diciamo, consigliarista, che la tradizione comunista, poi siccome la Rosa Luxemburg consigliarista, cioè di valorizzazione dei consigli operai, cioè degli organi di auto la classe deve auto organizzarsi e l'altro è un problema del partito. Il fatto che poi la Luxemburg sia diventata sua, magari abbia fondato lo Spartacus Bund dopo la rivoluzione, che era una rivoluzione comunista, che abbia dichiarato il proprio sostegno alla rivoluzione russa e che sia stata assassinata nel 1919 dai socialdemocratici tedeschi, ha fatto da Luxemburg una martire ufficiale del, come dire, comunismo, e Lenin e i suoi successori si sono ben guardati, diciamo, gli scritti erano noti, ma dal sottolineare che c'era stato questo dibattito e che fino dall'inizio Luxemburg non era sostenitrice della dittatura del proletariato e soprattutto della dittatura del partito. Vorrei sottolineare il proletariato, il senso di questa persona. In galera, cioè una cavalcuta, era una vera militante, però aveva questo suo marito che chiamava, che non era lì, il governo socialdemocratico di veramente con una cosa abruzzese all'inizio, quando ancora non si erano trasformati da parte del mondo, comunisti che partai Deutschlands. Vabbè, insomma, fanno di cosa assassinare, i cosi sono dopo 2 o 3 giorni, veramente una cosa di fare. Ma come mai? Perché loro erano sostenitori di una prospettiva insurrezionale, che volevano fare l'insurrezione del Stato organizzato, l'insurrezione del proletariato berlinese, in appoggio alla Repubblica dei Consigli di Baviera. I borghesi, come reagirono? La reazione dei borghesi, dei pensanti alla comune, è paradigmatica. Tutte le volte reagiscono, hanno fatto così con la rivoluzione spagnola. Loro, come dire, massacrano, fanno tutto. Dopodiché, alla prima reazione, a volte magari anche in qualche momento, come dire, eccessiva, di quelli che hanno appena preso il potere, se l'hanno preso, hanno fatto così con gli anarchici di Barcellona, hanno fatto così con i comunisti bavaresi, siete delle bestie, non avete la convivenza civile, quindi, e poi la stampa borghese descrive, cioè, il paradigma del terrorista, adesso è il terrorista islamico, ma a lungo è stato il terrorista tedesco, italiano, d'Italia, il terrorista è quello che, per quanto sconti fosse questo, che voglio difendere delle brigate rosse, però dico, il modo in cui viene presentato un militante rivoluzionario è sempre questo. Se sei una bestia, sei fuori dalla comunità civile, non hai né il senso che dai, i primi che ne hanno risultato sono loro. Quindi la Repubblica... Insomma, ci sono parecchie differenze tra il terrorista italiano, sì, non voglio dire, certamente. Tutti però uguali, voglio però... dire, ok, però diciamo, un militante come Curto, come Renato Curto, che ha teorizzato la lotta armata, che però è stato preso prima che le Brigate Rosse potessero fare qualunque cosa, credo che avesse una lui che non ha mai ammazzato una singola persona, che debba essere stato dipinto come questa belva sanguinaria, perché ma dai, cazzo, queste sono Polanski e Moretti lo fosse, va bene, facciamo le distinzioni, vediamo le singole persone. Alla Repubblica dei Consigli Operai Bavaresi vennero addebitate una serie di nefandezze, di robe che probabilmente c'erano state in parte, ma che erano dovute prevalentemente alla repressione precedente che l'esercito aveva fatto nei confronti che era cercato di prendere il potere prima, insomma. Una volta che hai nella Spagna franchista, voglio dire, preti e suore erano da sempre strumento del potere politico, non c'è stata una grande moriglia, ma qualcuno è stata massacrata, certo, qualche prete è stato uccidato, qualche suora ed è terribile, è stata anche violentata, ma voglio dire però, non è che questo qualifica, dice, allora il movimento proletario spagnolo è un movimento di belve spagnole. Vabbè, perché ci sono i dicembre, ho capito, no, ma questo per dire, insomma, che gli spagnoli ancora sono lì. Ma certo, ragazzi, ma perché non che è... cosa? Perché questi superano le donne. Ma mio cognato che aveva fatto la guerra di Spagna con la Francia franchista, mi ero perso tutta la mia adolescenza, ne avevo i coglioni con questo fatto. Affrontata una, due, tre, cinque, dieci, caso. Beh, però devo dire che comunque come forma politica si può. No, è riprovevole, è sbagliato, è da condannare, ma non posso valutare la Comune di Barcellona del 36 diciamo, dicendo il suo tratto fondamentale è che hanno stuprato dietro il cuore. No, questo è per spiegare anche la come una mite, come dire Rosa Luxemburg, però era una che poi quando diceva, cazzo, cioè bisogna fare l'impressione, non è che era una che era una pacifista, cioè questo spiega perché questi stronzi di socialdemocratici l'hanno assassinata, lei e Carlisle, tutte e due, non solo lì, perché lei era vero figlio, lei era vero. Ora la Luxemburg è, secondo me, un gigante del pensiero politico del Novecento e purtroppo è stata studiata poco, perché poi anche tutte le volte che sono ripresentate lei è stata l'ispiratrice. Allora per dirvi, quindi Rosa Luxemburg, martire del movimento comunista. Certamente quando andavi a pigliare dove dicevi, però le situazioni, allora la critica che si fa a queste posizioni ha un era di fatto un test, perché io ero contrarista, nel C ero contrarista, nella quarta ero contrarista. Perché era fatto come una cosa negativa. Ma la componente comunista è quella di Bolsonaro, no? Quella che ha detto Bolsonaro. Dove è finito il mio cellulare? Non l'ho passato. Oh no. Ripeti la domanda. La componente comunista è quella prima letta di Bolsonaro, all'inizio. Poi quando si fa la forma partitica, ovviamente quando prendono potere, diventa la controrivoluzionaria. Spesso anche prima, però, allora fatemi no, finire però questa dire parte. Che comunque Berlino è ancora molto amata, nonostante la caduta del muro. È una grande, una grande, cioè, una grandissima figura. Lei comunque una grandissima figura, e vabbè, insomma, ok. Comunque vi assicuro che il termine spontaneista per tutti gli anni 60 e 70 in Italia era una parolaccia. I critici di Lotta Continua, Lotta Continua veniva considerato un gruppo spontaneista, in realtà era un gruppo di arroccoli, più che spontaneisti, però erano spontaneisti, perché in realtà non erano leninisti, diciamo, rigorosi, insomma, no? adesso poi su questa roba ci arriverà. Abbiamo con tutte le cose dei gruppi. Allora, no, devo dire che l'ultima cosa per quanto riguarda, perché credo che poi abbiamo finito. Sono un passo temporale di 50 anni. Sì, no, sì, perché in breve poi vi dico. No, però vi devo dire l'ultima cosa. Beh, ma poi dopo ci sono tutti i partiti fino agli anni dopo la guerra mondiale. Ma quello in breve si dice, poi passiamo agli anni. Allora, c'era una ragione, c'era una storica del perché un russo sia stato, come dire, il teorizzatore di una concezione così autoritaria sia della religione che dello Stato. È sociale del fatto che Lenin non era uno stupido, che abbia teorizzato l'avanguardia. l'importante non è l'autoorganizzazione, no, esatto, esatto, non c'entra sulla abitazione. Allora, voglio dire che la però questa è la funzione autoritaria del partito di della in parte si spiega col fatto che devi spiegare veniva, operava in una situazione nella quale la sua volontà era una estrema minoranza e in cui quindi per forza di cose l'avanguardia doveva avere un ruolo. Certamente si può obiettare che molto probabilmente tutte le cose della parte della vita erano anche era quasi inevitabile che una rivoluzione che ha avvenuta in un paese di quel tipo, come dire, generato rapidamente in forma di capacità, non c'era spazio, e non c'era spazio per la formazione di una vera in altre strade. Ma direi che non c'è, non è, no, ma vedi, per io non dico, no, ma la questione è, cioè, l'idea era quella, abbiamo uno schema politico o una finalità storico in cui dobbiamo arrivare, cioè a una società senza terapia. Il passaggio attraverso queste cose è necessario o è naturale che si instauri una questione dittatoriale perché non si è ancora arrivati in quei paesi, va bene, ma cioè questo è prima di tutto perché si pensa che comunque stiamo inizializzando la storia verso quel tipo di cosa, no? E poi comunque non si sono interpretati questi movimenti all'interno dei sociali come la previsione di una evoluzione della storia sempre verso una determinata situazione di nota, come magari delle espressioni di auto-organizzazione, cioè si è sempre posta l'accento nell'analisi, quello deve essere sempre a un modello ideale successivo o comunque di evoluzione della storia verso una determinata forma. Ragione, infatti per questo che ho tutto quello che stato ancora di fare è stata l'idea che la tradizione dei nazisti condivide con quelli dei democratici e l'applicazione di uno schema unico per quanto abbiano tutti e due da vari punti di vista abbiano più volte pensato di caso, ma in realtà ci ricattano sempre perché è un fascismo però bisogna dire che insomma detto in altro modo ci sono più speranze, sarebbero state più speranze che una rivoluzione socialista si sviluppasse in maniera davvero democratica, non quello più facile in un paese in cui il proletariato ma secondo me si poteva pensare come si può studiare si può cioè comunque ci può stare l'idea di avanguardia e si può raggiungere e c'è una verità da raggiungere e c'è e inevitabilmente, come potremmo vedere oggi, questo tipo di teorizzazione politica e di politica sociale porta a una reazione da parte delle forze tanto contrapposte rispetto a quelle forze di altro di carattere. Questa è la spiegazione che di solito data all'estrema frontiera, ma non è questo che si diceva del fascismo, della indagare tra le due guerre mondiali, la seconda, Ma non lo so, cioè, cioè il fascismo in latino è più latino, cioè hanno razzisti, gruppi razzisti in Germania, dove ci sono delle famiglie del Novecento. La prima, in Russia, lo parliamo, e in Europa lo parliamo. Questo però riguarda anche il fascismo. È vero. Sì, perché lì è quello. Fascismo più avanti. Fascismo e nazismo non sono così comparabili e soprattutto riguarda contro l'idea che il partito che è stato più forte o meno maschio. No, perché molta gente adesso la pensa di no, ma non se lo vuoi. No, intanto guardiamo gli altri. Mussolini va al potere nel 1922, Hitler ci va 11 anni dopo nel 1933. Hitler si dichiara da sempre grande ammiratore di Mussolini. Il nome internazionale, quello che dice, è italiano. Il nazismo nazionale, socialista, partito, è una variante tedesca, ma il fenomeno si chiama fascismo. Quindi, ora, un fenomeno politico di questo tipo è vero che ha radici parlamentari, ha utilizzato e si è basato e si è nutrito di tendenze in genere centro-europee o est-europee con l'adesivo. L'adesivo che è stato un po' in Francia, poco in Italia, poco nel paese, in Italia, moltissimo in alcune zone della Germania, Polonia e in Russia, cioè non dimentichiamoci che è l'importante passo storico di anni, cioè questo codice che è accusato di un libro, un testo, che complottano per costruire un governo militare, è un passo storico che ha una funzione alla fine dopo e ci trovate in tutto il centro in Europa più volte molto riproposto come testo vero, reale come prova con molto ebraico, quindi questo è però l'antisemitismo in Francia con diciamo portò a quella grossa spaccatura di cui la stessa è qui, si dà l'unità di un padrone ufficiale che ebreo, che si è portata e non accusato di avere, è stato detto che è stato il luogo di aver passato dei documenti ai tedeschi, l'accusa era falsa, trovò qualche falsa, ma che nel caso del presidente condannato, e il francese di Slovac, convinto su Slovacchia, fece un testo storico che non era come ho la figura dell'intellettuale impegnato, poi c'è un testo di un proprio di giovane, di cui aveva dei pari, e la storia di fatto tutte le componenti tedesche, in realtà però anche in Francia o anche in più paesi grandi tipo era stato messo al servizio dal punto politico di regimi di vecchio tipo, cioè regimi autoritari confessionali, l'anismo l'unterismo, il predominio dei non importanti ieri nella Russia e poi in tutta la Germania, produceva i governi conservatori classici, i governi di cui poi in qualche maniera i partiti, diciamo, dello cristiani sono stati eredi molto quanti e molto meno a autorizzare il governo. Cioè, condizioni liberali pratiche, repressive, certo, ma il fenomeno del socialismo si ha quando questo modo di pensare, razzista, xenofobo, sensualista, si fonde con il comunismo e quindi con una posizione che vede un rapporto diretto delle masse, del popolo, con un leader carismatico, il quale è un fenomeno politico totalmente nuovo in quanto forma politica. Il fascismo è una forma politica tipica del Novecento. È tipica del Novecento che ha alcune similarità in altre zone, per esempio il caudillismo dell'America Latina, ma il caudillismo dell'America Latina che già si era presentato nel corso dell'Ottocento non era esattamente, non è mai stato esattamente fascismo, era populismo con tratti autoritari, il peronismo. Il peronismo, diciamo, però è diventato quello che nel Novecento, ma erano già stati prima, sono stato sempre più tipico. Sì, ma allora, e notate che non a caso tutti e due i grandi sistemi, diciamo, sia quello creato che quello tedesco, sia per quello che era quello, sono vengono da pezzi del movimento operario. Mussolini era un militante massimalista, anche il comunista, direttore della banca, insomma, quindi era la prima guerra mondiale. Diciamo, spaccia i socialisti in grande maggioranza, secondo la carriera del fascismo, un po' di socialisti interventisti, sul tanto, ma non comunicano la povera. Il nome del partito nazista è Nazionale Socialisti Partei Deutschland, un partito nazionale socialista, non partito di destra, non partito conservatore, non partito liberale, socialista, appunto, questa lingua di tipo nazionale. Quindi, come dire, che in qualche maniera questa destra, non tutta la destra, non quella nazionale, ma questa destra, diciamo, razzista, identitaria, eccetera, sia figlia di spezzoni degenerati, giustamente, diciamo noi, andati a male, ammutiti, fermentati in modo sbagliato, ma cazzo vengono, e in qualche modo è vero che sono simili, sembrano commerciare. Quando nel 68 i gruppi diciamo più radicali di destra, i gruppi radicali di destra, quelli che poi avrebbero fatto le strade, si insinuano dentro il movimento studentesco e diciamo, ci offrono in continuazione l'alleanza, perché loro sono d'accordo, tutti e due siamo molto più tema, anche noi siamo molto più tema. Cioè è l'anticapitalismo reazionario. C'è una componente reazionaria di destra, di repubblico tradizionalista, identitaria, diciamo passatista, che è quello che ha creato il mondo del movimento, a lettere di pentali, sì, perché c'è dietro questa roba, i centri, la cosa, l'acqua del cuore, eccetera. Ma dito quanto so che è, però insomma una gran parte del pentali c'ha quel cazzo di cosa lì, di vagheggiamento di un passato in genere inventato, che non c'è mai stato, sta cazzo di roba della razza di Lana, è razzismo, eh. Allora, Tira Tira Tira nasce nell'Ottocento, Bobinot scrive dell'illegalità del razzo in mezzo nel costruito del 1930 e studiamo. Ma nell'Ottocento non si crea mai un movimento politico basato su questo. Ci sono singole cose, quindi. Ma non c'è mai stato diciamo, il fascismo come fenomeno politico esiste nell'Ottocento. Ed è una reazione alla modernizzazione della società opposta, ma per certi versi speculare a quella diciamo, socialista, a quello serale, insomma, per certi versi speculare, ma rispondono agli stessi problemi. Cioè, mentre la diciamo, tradizione come operaia, come socialista, comunista, comunista, marxista, diciamo, intende in vari modi inserirsi nella modernizzazione per governarla, per cavalcarla, per farne uscire le tendenze più favorevoli verso la diciamo, liberazione dell'umanità o del proletariato attraverso il liberando processo dell'umanità, nella risposta fascista c'è un ritorno indietro. c'è un diciamo, risposta, dice no, torniamo, cioè, torniamo a prima che fosse partito, torniamo a quando la razza era pura, torniamo a quando l'identità nazionale era più chiara, torniamo a e tutta questa cosa si cementa, diciamo, si riassume, viene simbolizzata da un rapporto diretto e paradigmatico del leader con il suo. Da questo punto di vista Berlusconi non è un partito, Berlusconi non è contro la modernizzazione, Berlusconi è un populista, è un populista, ma non è un partito. Tu sei brava, invece sono molto che si sono no, ma aspetta, ma le, no, mentre vedi, guarda che nel loro immaginario loro si considerano antifascisti. Che faccio no, Borghese è un caso a fare, Borghese è tollerante della Lega, cioè Borghese non è un vero dirigente della Lega, è uno che trova la Lega di Corno, di Corna, detto Corno, vero. I Calderoli, i Castelli, i Cosi non sono partiti, perché pigliano non tutte, ma una delle componenti, c'è questa cosa dei ricchi, cosa dei leader, che sono tutte, hanno questo sentimento, io non ho mai capito, io apprendivo quando vedevo da Lema che c'è tanta questa però cazzo, in qualche maniera cioè sapere che, come dire, perché no, ma sono un pezzo, una cosa alla sinistra, quando si fa, esattamente la forma, loro sono la forma nuova del sì, anche poi comunque è anche una detenzione di forza di lotta, per le politiche del nostro possono essere una alla la protezione, certo, anche perché non nel diciamo della direzione della storia, ma anche perché facciamo che di nuovo facciamo quello che è un po' di informazione. Cosa vuol dire che se io, cioè, però una cosa, cioè, se io mi ritrovo a conoscere i figli del mio quartiere, della mia parte, vuol dire che c'è un principio. No, aspetta, nel senso che quando l'opera viene imposto, generalizzato come pallone condiviso. Ma se tu fai di questo rapporto quello che è diciamo una contrapposizione all'altro mondo. Una struttura organizzata da contrapporre, cioè nel senso che la politica di relazione, assolutamente non è quella che viene anche. Cioè non è che diciamo perché questa politica può diventare, no, sicuramente la situazione è anche un po' aperta all'esterno, perché lo succede della situazione del quartiere, la relazione può essere anche all'esterno e poi cioè, è giusto chiaramente che tu abbia che tu maturi, nasci, però questo ti deve aprire alla se non hai se tu non hai la convinzione che le culture sono processi di ibridazione tra tradizioni, modi per stare tra diversi, poi ovvio. C'è il pericolo quando il loca diventa un sistema valoriale. No. Cioè quando alcune volte succede anche nelle quarte istituzioni. Penso che io sono posizionato poi la nota la quarta forma. Però non è che posso tendere allo stremo alla ronda, ma no, soprattutto non è che il polemico che sia quello il modo di fare la banda fuori. Qua no, ma esatto, devi costruire una politica di aggressione verso chi manca i vinci, verso quelli che fanno i vinci piazzi marchigiani. Oppure, capito, cioè, nemmeno creare un'area di protezione, cioè, esatto. Vabbè, arriviamo a volo uccello agli anni 60 o no? Sì. Allora, per preparare l'accenno a tutto i problemi teorici che si sono posti a questi fuori all'inizio degli anni 50, però bisogna fare rapidissimamente a loro uccello, semplicemente una breve discussione, va bene, su fascismo e nazismo abbiamo detto adesso, ora l'emergere, diciamo, la rivoluzione russa, diciamo, il Novecento fu più o meno aperto dalla fine della prima guerra mondiale, quindi dal terremoto geopolitico che si era creato. Dalla rivoluzione russa e dall'emergere del problema del fascismo internazionale, e che da vari punti di vista può essere guardato come una gigantesca, come un complesso ampio tentativo di risposta di quello che si chiama l'Occidente, cioè del capitalismo, alla sfida in qualche maniera posta dalla rivoluzione russa e poi da quella cinese, poi Cuba. Non così grave come le prime due. Quando parlo di sfida posta dalla questione russa, da quella che non intendo affatto dire che. Sai, che va in questo mondo delle cose della mia generazione. Parleremo anche di questo. Allora, quando dico problema posto dalla questione russa, voglio dire che la questione russa avesse davvero creato quello che loro mitologicamente dichiaravano di avere creato, cioè questo cosiddetto fantomatico stato supremo. Da vari punti di vista, dal punto di vista economico, sia la Russia che la Cina erano due stati capitalisti imperiali. Le due rivoluzioni non fecero altro che avviare lo spaziale capitalismo. Loro sostenevano di essere economie capitalisti, cioè capitalismo in particolare, molto burocratico, molto burocratizzato, molto. Ma dal punto di vista politico era indubbio che questi due paesi costituissero una minaccia non per la identità occidentale in quanto tale, ma per le diverse opzioni della identità occidentale e soprattutto per la gestione politica dell'economia che i gruppi dirigenti dei capitalisti, eccetera, il fascismo e il nazismo complicarono la cosa, perché crearono all'interno dell'Occidente una alternativa alla gestione democratica del capitalismo, alternativa così pericolosa per gli stati costituiti democratici, che la lettura che questo è stato dato è talmente pericolosa che poi la lettura storica che viene detto dopo fu una lettura aberrante, stupida e indipendibile, cioè che fascismo e nazismo fossero, soprattutto il nazismo fosse stato una sorta di incidente, di un'aberrazione, di una cosa che non era vera. il fascismo, tra il 900 e il fatto male, è una delle due cose politiche che può prendere la decisione politica. Il fatto di trattare il conflitto, il fatto che siano fatti particolarmente, non vuol dire che il capo del Stato o quello della Covid, vuol dire la tradizione democratico liberale del socialismo ha cominciato con la demonizzazione del nazismo a portare una conseguenza verso il numero uno, perché si è autodegittimata come l'unica forma di gestione politica possibile del sistema socialista, dicendo che l'altra non era neanche questa dignità, che era fuori dalla storia, perché invece si è trattato di un confronto altro vinto dalla componente democratica con l'aiuto di Lutz, ma di due cose, di due componenti. Sullo sfondo di questa cosa c'era comunque però un'altra illusione che apparve all'inizio, molto chiara, dopo la guerra civile, cioè il declino della prima forma di governo implicito o coperto il governo mondiale della tecnologia, che era stato dal 1930 il pelo britannico, era stata la forma politica e economica attraverso la quale il capitalismo si era imposto. Sia la prima che la seconda mondiale in realtà furono probabilmente la seconda mondiale, dimostrarono la obsolescenza o la fragilità del sistema politico. E, ovvero da prima mondiale, farò però rapidamente un'alternativa, che cioè un commercio legislativo di potenza, economico, ma anche politico, del mondo umano. Torniamo un attimo precedente a Marx. Nel tipo di capitalismo che Marx aveva analizzato, che era il capitalismo, diciamo, concorrenziale, che prende la stessa maniera rispetto all'ora, però come diciamo era un capitalismo un po' più concorrenziale di quello che sono adesso, quello della prima fase, della prima fase del ruolo del mondo. Avevano fatto dire, aveva fatto enunciare più volte l'idea che ci fosse una concorrenzione o una sostanza sulla quale il proletariato poteva fare leva all'interno che era questa. Tanto era organizzato e quasi interessato per capitalistico all'interno della fabbrica, tanto era organizzato gerarchicamente all'interno della fabbrica, tanto era, se volete, anarchico nella società. Cioè le forme politiche e sociali nella società civile, diciamo nella sfera interna, quella della economia, non dimostravano lo stesso grado di organizzazione, di coesione e di disciplina che mostravano lo stesso grado. Diciamo che la capitalismo si dimostrava di essere uno, in alcune formazioni di massa, un sistema molto ben organizzato sul piano economico all'interno delle città produttive e molto poco organizzato, diciamo lasciato in balia di rapporti di forza quasi brutali nella vita di Camerica. Eh, già Bertrand Piaget, per favore, la morte, ma alcune tendenze analizzate con la carta da Rodolfo, da Leo e da Ada, da Altaro, e da lui, da mostrarono però che questa cosa stava da cambiare, tanto che c'era una forma capitale che sino ad allora era stata, vuol dire, capitale di servizio, che serviva al capitale industriale, ma che non minava la nostra, diciamo, minacciava la qualità del capitale industriale, che era il capitale industriale, quale stava invece prendendo spazio sempre di più, si dimostrava importante più che il capitale direttamente impegnato nella produzione di mercati materiali, il capitale impegnato nelle condizioni economiche generali per far produrre mercati materiali, cioè i mercati finanziari, cioè quelli dei mercati, come causa di questo grande. Questo è già un problema. Ma la grande crisi del 29, l'ultima delle grandi crisi di sovrapposizione, siamo già stati per diverso per il suo tempo, ma mai nessuno ha ricordato il caso di questo evolutivo. Il capitalista è la teoria della crescita, della crescita di stimazione, ad un certo punto arriva un momento in cui l'energia che tu che produci non sono più assorbite da quando tu produci enormemente più merito di quanto sarà obbligato di assorbire, hai un crollo, perché in condizioni classiche di capitalismo totalmente concorrenziale è negli anni dopo la crisi del 29 e nelle teorizzazioni più grandi che sono state e nell'azione del governo stesso che cominciano ad esserci che questa caratterizzazione del capitalismo della Marx, alcuni parti, come che era stata da una tradizione tra disciplina classica, organizzazione classica e anarchia nella società, fosse realistica. Forse era realistica anche in Marx, ma i tempi del capitale finanziario e del nuovo imperialismo che si chiama a Forza, che era un po' diverso, che cosa dice che è l'unico modo di fronte al panico di tutti che affrontiamo prima del panico che vedevano di soffrazione di massa e per esempio anche un po' di cambio la nostra forse usando la storia familiare che si usò del funzionamento anche di soffrazione di massa che cosa dice pazzi se pensate di risolvere, di aspettare che l'economia si impoveri da sola, che lasciando mano libera alla cosiddetta mano indivisibile di Adam Smith, di capitalismo di e ritrovi un pubblico. Qua devono essere i poteri pubblici che dovete fare un piano, dovete fare un piano. La società deve denunciare il cambio della vostra dovete anche passerebbe addirittura installare dei posti il giorno a quello che sia un giorno dopo, insomma basta che sia deve essere una sezione del capitale gestita dallo Stato, dai poteri pubblici, varie forme. Per dare un sostegno alla domanda, perché una crisi di produzione non è altro che una crisi che crea un crollo della domanda, ma volta la domanda della domanda e crolla sempre più perché hai sempre meno reti, perché lo sanno che si hanno solo prodotto, chiudono, buttano via le robe. Si cominciava a fare luce, insomma, un funzionamento del capitalismo un po' diverso da quello che Marx aveva, diciamo, definito, e che nel secondo dopoguerra esplose. Modo più il secondo dopoguerra degli anni 45 e gli anni grande rilancio economico dopo gli enormi prezzi, dopo gli enormi investimenti che hanno fatto in armi, armamenti, che erano tutti per capitali, prendo qui non hai certo un po' la bella, dove belle società di bombe, mi vedono un po' meno perché si sono caricate, ti spiego per il modo quando lo sai, tanto fare, il paese che più di tutti era stremato in Europa era l'Inghilterra, che ancora non l'Inghilterra non si risolveva dalla costruzione più economica, quindi è stato preso l'Europa che si era un tipo di spazio, diciamo, più tedesco, la Francia era la spada, Italia, qualcosa, perché era la prima parte della rete industriale, era ancora quando, durante gli anni 50, i grandi investimenti americani, attraverso il piano Marshall, da parte d'Europa in particolare, dai paesi, l'Italia si era bloccata, una parte dell'Europa alla metà degli anni 50 sottolineò una specie di piccolo boom economico e le lotte operaie che tutti gli operai si erano ovviamente nel periodo del fascismo concentrati largamente sul punto politico di abbattere il fascismo, che era stato il grande politico internazionale, eccetera. Da un lato ripartono le lotte, dall'altro si comincia a analizzare che cosa è il capitalismo, come sta cambiando, e il termine che viene fuori è quello di neocapitalismo, e sull'onda del precedente, per quanto al momento che vediamo, di 30 anni prima circa, si comincia a i partiti operai tradizionali, diciamo, i comunisti di vario tipo, o quelli comunisti che però stanno rapidamente approdando a chi si vuole visitare, ma il comunista è già tutta la strada da tempo. In tutta questa cosa quindi cominciarono anche le lotte per operaie, ma diciamo quello che il conto principale pareva essere quello di analizzare l'economia capitalista, già allora bisognava capire che il capitalismo stava già cambiando, la parola capitalismo non era bene, se il capitalismo era quello gestito da Marx, esatto, ma questo era un capitalismo nuovo, era stato immerso le merito della giustizia finanziaria e migliorare dimensione intervento pubblico, quindi programmazione. I partiti operai tradizionali però in Italia rimangono attaccati a questa idea, a questa contrapposizione che aveva le politiche, diciamo, l'organizzazione della fabbrica alla fine. E quindi rilevano questa tendenza del capitalismo a pianificare, a crearsi un programma, a darsi un ordine al che vuole. Però dicono, il capitalismo da solo non ce la farà mai. È interesse della classe operaria agitare questa tendenza, spingere il capitalismo a programmare per causa di adottare il capitalismo. Perché Questa è la forma che per gli equiti potranno maturare degli elementi. La cosa era facilitata dal fatto che le economie, al stato capitalismo, ma non era chiaro, che i paesi come la Russia e la dall'inizio erano economie pianificate. Diceva, noi siamo economie pianificate, voi potete organizzare la città di oggi, da noi era praticata chiaro. Non era ancora chiaro quali quale fosse la reale portata, non si sapeva la reale inconsistenza che poi poteva. Insomma, in qualche modo, sia per il paese socialista che per il paese comunista, in maniera diversa, l'idea di spingere, l'idea di una terza che dovesse essere partigiana di una terza era coerente con la vecchia idea di Marx, che era una contraddizione tra come si fa e che ci fosse anche che quello fosse una traduzione finale delle principali figure intorno alle quali Marx sembrava avere trasformato il canale delle spazialistiche, cioè la cooperazione tra sviluppo delle forze produttive e la dimostrazione di passare male alla lista. La capitalista porta con sé anche la causa come effetto della sviluppo delle forze produttive. Ma questo gruppo delle forze produttive ad un certo punto entra in conflitto con il rapporto di questo lo sviluppo delle forze produttive. Diciamo, creato, favorito, sviluppato dal socialismo, si ritorce con il socialismo, è un caso perché il rapporto socialistico di produzione è la produzione privata, del capitale, la produzione privata, la produzione privata del valore, è in contraddizione con lo socialismo. Era come vedete, questo era il marxismo, un meccanicismo, il marxismo, un persiano, il marxismo, un marxismo, ma era un marxismo che andava benissimo per i teorici l'idea dell'ordine della strada, penso che sia di Dio che lui sta già fuori, comunque non c'è una forma politica e non c'è una che, mentre nella singola fabbrica per tutto lungo con la merda, qua è una cosa organizzata, pianificata, nata una produzione sarà benissimo, no? Benissimo la produzione, ma non c'è l'unica economia. Economia. Anche l'attività economica extra fabbrica è anarchica. Anarchica nel senso di senza ordine, cioè la produzione è fine pianificata, e non... la produzione è pianificata, la circolazione della distribuzione, questa è la cosa. No, l'idea tagliata, totalmente tagliata, ma questa era l'analisi tradizionale dei o quello che ha come artista e quello che stava avviando a una cosa che è la questione dell'ordine fabbrica era risultata molto più chiara diciamo, all'inizio del secolo agli anni 10 da lei. Quando si era creata una grande ristrutturazione all'interno delle fabbriche, la prima in America, allora è stata iniziata nelle realtà di 1949, perché il teorismo dall'economista, l'ingegnere che aveva pianificato. L'invenzione fortista della carta fu una estrema. L'operaio di sé, l'operaio di cui parlo, era l'opera che era da quelli che avevo citato la vita di voi, o anche a quello che ho detto io quando ho fatto l'operaio tradizionale, no, l'operaio del capitalismo concorrenziale nella fase che hanno finito per essere è ancora sostanzialmente una è un artigiano che effettivamente non ha più il progetto. Perché utilizza la lingua, ma è uno che conosce il mestiere, conosce molto bene il certo aspetto, sa come far funzionare. Prendiamo l'esempio di tutto. Un operaio produttore è un operaio. Però è però tu pensi che un operaio tornitore è un operaio che può fare anche che tornisce per diversi. Se nelle fabbriche più piccole in cui c'è solo lui che sta al fuori e tutti gli altri costruiscono dei pezzi, fanno dei prelavorati e glieli danno, lui tornirà. Non solo posto, non sono legati lì, sono legati a barca, ma vedete che non si vede la sua macchina. È una macchina, non è sua la macchina. Quindi quello che dice Max, che il prodotto del suo lavoro dice anche di contro, questo è sempre vero, è ovvio, perché la macchina non è sua, non è il caso sua che si dice il lavoro. Però egli ha un piacere per me. Nell'industria automobilistica, ancora quando gli operai della FIA occupano la parte del turismo, che ora è di Londra, nel 1921 sotto la guida sono nuovi. Questi operai comunisti, questi operai operai della FIA erano ancora in contatto con l'operaio politico. L'operaio tradizionale aveva una professionalità. Ora, se voi guardate il grande lavoro che avete fatto, gli ultimi decenni del secolo, all'interno del dettaglio del secolo, vi rendete conto che di quando vi è l'espressione di Marx, il capitale è lavoro morto che si è in questo modo come di conto al lavoro. Ma capite anche che cosa vuol dire la ricchezza sociale è veramente prodotta dalla una intera generazione di ingegneri, che lavorano è andata a fare nelle parti del lavoro un lavoro di testa, un lavoro di classificazione dei lavori e dei mestieri fatti dai singoli operai professionali, dalle singole parti professionali operarie. E tutte questo hanno scomposto quei ingegneri, hanno preso un tornio e i tre o quattro diverse parti della lavorazione le hanno assegnate a tre o quattro macchine diverse, a tre o quattro segmenti di macchine diverse che hanno scomposto il lavoro tradizionale ancora semi-artigianale del lavoro tradizionale, l'hanno automatizzato, l'hanno fatto fare a delle macchine automatiche tutto quello che si poteva fare, hanno tutto quello che non si poteva fare, lo hanno idealmente distribuito lungo una serie di stretta, una serie di nastro sul quale scorrono dei simili lavorati e un operaio visto davanti a ogni singola persona, fa un solo gesto ripetuto, non del danno assolutamente, perché cioè, per abitare la vita, la certo, questo è la logica, questa è. Ma non conosceva il costume, ma il costume fu la migliore identificazione della diciamo, concretizzazione di tutte le cose che erano bisognate, che avevano creato sul capitale come la loro morte con il rapporto al lavoro vivo, la loro morte perché dentro al flusso produttivo, organizzato, pianificato al decimo secondo, al millimetro della cosa, ci sta dietro tutta la sapienza e la ricchezza, il sapere degli operai di Tarantella. Nella fabbrica automobilistica dagli anni 10 agli anni 30, tutto quello che potete automatizzare venne automatizzato, e non era molto, tutto quello che potesse essere messo per l'inventario delle vecchie cose delle. Rimasero ovviamente tutta la serie di diciamo, lavori che erano fuori dai anni, ma molti di questi erano comunque lavori come dire, diciamo, più qualificati. Io sono arrivato a Genova nel 1982 e facevo la malattia che mi parlava con la realtà, quindi c'era uno che andava a lavorare alle persone cariche fuori linea di distanza, depresse erano fuori le città, c'erano molti lavori fuori delle difficoltà. La mia entrata principale era la fabbrica di auto, era la produzione del corso, perché ero al settore carrozzeria. Nel supermercato il vantaggio era relativamente poco. E vedete, questo mio amico, questo operaio, era uno che tutto faceva, il suo lavoro consisteva nel raddrizzare il giorno, raddrizzare tutti i barretti di metallo piccoli, martellate, raddrizzarli che erano uscite da una azione automatizzata, ma quello che uno diceva, come dire, controllare il progetto e quelle che non erano dite, quindi erano prestate male. C'erano appunto lavori assolutamente dequalificati, però fuori da tema. Una piccola parte dei lavori delle meccaniche richiedevano ancora un quadro di professionalità. Questa era allora, questa è già il fortissimo, il terrorismo fortissimo fu l'apoteosi dell'organizzazione capitalista pure, e fu però una grande rivoluzione nel modo di perché magari allora non è già decidere parecchio tempo. In Italia probabilmente il fordismo non arrivò del tutto, ancora come diceva, ancora gran parte degli operai che occuparono la fila del 21-22 erano operai professionali, avevano una tradizione, erano quelli che a poco cominciarono a essere chiamate aristocrazie operarie. L'operaio, come dire, tradizionale, l'operaio professionalizzato, aveva anche dal punto di vista della sua esperienza di lavoro, insomma, in qualche maniera qualche ragione per in qualche maniera identificare con la parte. Immagine di piacere lavorare. Mi piace lavorare, so fare il lavoro, so cosa fare, so come. L'operaio fortista nella catena di montaggio, l'operaio che non deve fare altro che tiene in mano lo spruzzatore, deve spruzzare delle mise sulla carrozzeria, sulla per essere conti, quanti secondi per una carrozzeria che va avanti, in questo tabino rene di vedere girare per quanto abbia marche, cose lì. Che cazzo volete che sia orgoglioso di fare? Anche il mio amico Papa Andrea che martellava per sentire di roba, di che cazzo doveva essere orgoglioso, anche poi il confortismo stava creando una serie di trasformazioni dentro la casa operaia, dentro la composizione, quindi diciamo, sociale, dentro l'esperienza operaria in fabbrica, il sapere operaio era stato espropriato, tutto ciò che c'era incredibile era stato soggettivato nelle macchine che funzionavano in base a come, gli operai manualmente facevano il lavoro, e all'operaio stesso veniva restituito in forma parzializzata, segmentata e totalmente priva di significato, totalmente era qualcosa con cui non si poteva più identificare. Il termine hegeliano e marxiano alienazione ebbe con l'avvento del socialismo una nuova definizione per una ragione in più. Questo era se l'altro lavoro era alienato soltanto. Ma l'alienazione non l'ha preso la Il termine alienazione applicato al lavoro significava che astrattamente il prodotto del lavoro operaio veniva espropriato, cioè l'operaio non aveva più il controllo totale sul processo produttivo e il suo lavoro veniva, il prodotto del suo lavoro diventava di proprietà di altri perché il capitalista che aveva pagato la sua forza lavoro, la sua disponibilità a lavorare con lui per qualche tempo, con l'organizzazione fordista il termine alienazione diventa letterale, è molto più letterale, è molto più forte la alienazione di un operaio fordistizzato, o meno, rispetto a quello di un operaio tradizionale. Il termine alienazione però non è un termine che piaceva molto ai marxisti, perché era un termine che rimandava troppo al degenismo marziano, e da un certo punto di vista ha ragione anche, perché in qualche maniera il termine alienazione anche nei manoscritti economici del 44, in realtà rimane una componente italiana forte, anche in qualche maniera in una sorta di nostalgia esercitata, non del lavoro, ma di una sorta di dimensione umana integrale, era quello è un problematico collettivo. Però è quello su cui si inserisce la psicologia dell'epoca, la alienazione. Quando Antonioni nei film si anche comincia a fare che non parla di crime fatto, ma il termine è alienazione, la nazione diventa, come dire, dalla fatto che ancora si espande a tutta la società, è un fenomeno, l'uomo, come dire, moderno, alla fine della questione della città, è un uomo alienante, l'operaio di fabbrica in quella forma lì, ma siccome in qualche maniera un po' tutta, c'è i modi operativi della fabbrica cominciano a migrare anche all'esterno della fabbrica, anche negli uffici si comincia a lavorare con segmentazione, le cose vengono parzializzate. Il lavoro è altro da te e c'è qualcosa in cui non puoi identificare, okay. Non si e può identificare. Perché questo cosa dell'allenazione è una restaurazione della dimensione umana dell'uomo in cui lavoro si realizza. Era chiaro che il lavoro nero socialista non si poteva più realizzare. Per certi versi no, perché è tornata per altre vie, però in un modo totalmente diverso. La relazione è una puffa, è una cosa di vendono all'esterno. Allora, sempre lavoro, diciamo, più che il termine alienazione, più il termine che probabilmente descrive meglio la condizione operaria di quegli anni è il termine estraneo. L'operaio è comunque, diciamo, l'esperienza dell'operaio, la parte comunista è l'esperienza di estraneità. Non solo il prodotto di una parte del mio lavoro di estraneo, ma il mio stesso lavoro, il mio stesso vivere da tempo, è qualcosa che non mi interessa, è qualcosa che mi interessa di sentire, è qualcosa per cui cerco di pagare, di cui non posso fare meno perché mi serve per vivere, ma non è certamente qualcosa in cui io mi posso realizzare. Non a caso, contemporaneamente a questa, diciamo, fortificazione del lavoro del neocapitalismo italiano ed europeo, c'è invece la grande spinta del capitalismo a valorizzarsi e a realizzarsi anche il tempo libero. Le lotte sindacali, le lotte precedenti si hanno conquistato anche i lavori per tempo, 8, 16, 14 ore, oggi lavoro 8 ore, il tuo sindacato ti percassa il salario di te. Vai a finito il lavoro, vai fuori, vedi tutte le cose che ti offre il mondo fuori, realizzati andando a fare altre cose nel tempo libero. In qualche modo, in alcune delle organizzazioni marxiste del tipo ufficiale, viene fuori in qualche maniera l'idea che il socialismo consista in qualche modo in una specie di infidelimento del tempo libero in cui l'uomo si possa realizzare, e non è che fare lo scopo, non c'è, quindi comincia a comparire nel periodo comunista l'idea di ribaltare l'organizzazione capitalista e a parte sbarazzarsi di un'organizzazione in quanto tale che si espropria non solo del prodotto ma anche della tua attività, se non per cui tu non sei più erogatore di lavoro, ma sei erogatore di forza lavoro, sempre per caso, la forza lavoro, cioè quello che ti do il mio tempo e come dire basta, bene, non si cerca più di superare questa organizzazione. Ma si dà per contatto con questo che sarà in qualche modo, e quindi il progetto tecnico sia un elemento centrale o pagamento, e che il socialismo consista nel o nel gestire in maniera più razionale e più pianificata lo sviluppo tecnico e il capitale sarebbe in salario da solo. Da un lato, dall'altro, quello che abbiamo il tempo libero, facciamo il lavoro per il lavoratore che si può realizzare. Questo è il quadro nel quale comincia alla fine degli anni 50 a lavorare, 50 a maturare la tecnologia che si può realizzare. Secondo, assorbe i primi ebook che si diventano a questa, diciamo, paralizzazione e impoverimento del marxismo e di una progressiva radicalmente anti-marxista, quindi tanto, diciamo, di lavoro che è effettivamente stato insieme però accettato, un po' dentro, un po' fuori, per rinnovare tornare avanti, recuperare la condizione piena di piano, secondo, organizzare, capire come possono essere potenziali le multiplicità che danno la carattera, danno il capitalismo per costruire la dimensione politica. Sono due sorridenti, diciamo importanti. Nel 1960, la prima guerra, il movimento sociale italiano, il partito socialista, la forza che si trova, decide di vedere l'orientamento di lavorare a tempo, di fare attualmente, che era stato tra cui la velocità, la città in soldi di casa e poi di fare e ovviamente può fare una preoccupazione se ti vogliono la possibilità di fare una preoccupazione ma ovviamente diciamo, la conferma del stato di vista è la tasca di ovete era un po' legale, la tasca di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più di un po' più con tutta una collaborazione anche un po' magica, però disciplinatissimi e fedeli a questa comunità e in quella estranità aveva quasi la in quel giorno 32 1980 potevo molto grosso molto dato ma quando la comunità non fa il fatto di campagna, di cadere, di manifestare, non fa il fatto di cadere, no, sono qua, ovviamente il cacciatore rimane il padrone della piazza, ovviamente la polizia appena vede che non c'è più la copertura politica perché è stato che non c'è una cosa, comincia a fare intervenire prima non rispondono gli operai, però gli operai non rispondono, si corrisponde, l'anno chiede, cominciano a servire delle permesse e fanno il trasporto per il cacciatore della piazza. Quali per militare l'operario con la piazza, quindi che si paga quasi torneva l'anno? 30.000 euro. I morti non si scappano quel giorno a Genova, si scappano quasi il giorno dopo a Repubblica, per la il fatto politico è per la prima volta il settore del proletariato, gli operai molto giovani, una parte di loro portavano le droghe e quindi la mia tradisce diciamo una famiglia di proletariato ribelle e non disposto a dire che sono una situazione di comunista e di proletariato in Europa l'atto di nascita della Britannia, chi stava con le antenne a capiva che c'era quella scuola che stava. Due anni dopo, nel 1962, si apre un nuovo caso di britannici, i sindacati hanno un comportamento veramente differente, non so più bene se la UIL, e nella Will nonostante che la pioggia, che è quella che è la piazza, tenti di impedirlo, tutti gli ucraini di Apollo al posto che è stato visto, è stato ancora visto, è stato visto, è stato visto, è stato visto, è stato visto, è stato visto, è stato visto, è stato visto, è stato visto, è stato visto, è stato visto, è stato visto, è stato visto, è stato visto, è stato visto, è stato visto, era la fonda la una volta che cominciava a esuscitare, viveva comportamento della terra che non era più. Nello stesso anno, 1962, esce questa rivista, questa è una ristampa, questo è l'originale, uso le cronache, che si chiamava Quaderni Rossi. Quaderni Rossi era formato da un gruppo di militanti prevalentemente dell'area di Sanchez, che è parte del gruppo di C, e alcuni morti di Sanchez. L'idea di Sanchez era quella di esattamente quella di analizzare, di capire quello che succedeva all'interno del operaio, per costruire una struttura classica che da un lato capire quello che c'era la questione, dall'altro restaurare gli strumenti teorici che avevo fatto sapere sia strumento di lavoro. L'animatore principale di questa documenta era che era data di che cominciò a capire. Cioè lui è voglio capire che lo prendiamo in qualche modo, molto moderno. Quali erano i... Allora, e di questo... da quei nomi, insomma, di questo gruppo, oltre a tante cose che abbiamo fatto, tra gli altri nomi, nel primo numero, cioè, collaborano alla creazione del libro, formano il testo della parola, Giuliano Buoretto, Ciao Granea, Fino di Palma, Giuliano Lanzardo, Mario Nietzsche, Giovanni Mucciuto, che è stato curato da lei, probabilmente del Comune di Palma, pare che se non mi pare del 2004, ricordiamo il suo nome, Sento il 2-3 o se un 2? Allora, c'è un 1, quello che è solo 6. E a un certo punto credo, nel 4, nel senso che sa che a un certo punto può fare anche il 2-3. Allora, le posizioni... poi racconterò un po' anche la comunque è il gruppo di cui questo è l'incubatore di quello che ho chiamato una cosa un'inchiesta una parte una gran parte della questa italiana la città e anche come sarebbe stato meglio per la parte che era un po' più importante per il futuro per il futuro per il futuro per il futuro per il futuro per il futuro per il futuro per il futuro per il futuro per il futuro per il futuro per il futuro per il futuro per il futuro per però come il campo di aria è tutto un bel libro che si chiama La nefasta del dolore del campo di aria in cui prende il titolo di capitolo in cui tutto qui si vede la nefasta del dolore che è stato un po' di un prima ora è uscito prima ancora però all'inizio fa esattamente questo lavoro, poi il testo diventa soltanto la prima, perché le due pagine, più da però dai, Grazie. era il risultato di una grande che può portare le intenzioni formule con le quali anche con Nova che persone in questo libro intendo ricoprire il campo problematico nel quale si svolge le diverse quali partendo da quello esperienza voglio ricoprire nel piccolo concettuale che permette di interpretare il senso di diminuire tra l'interno forse anche per esempio di primo comunicazione che si può. Questa è la mia idea. Dalla lavorazione progettuale che si attenta intorno al sistema di progettazione letterario deriva una caccia metodologica utile a comprendere oggi qualcosa della transizione paradigmatica che si intende oltre l'esaurimento di questa oltre il gioco di progettività, dai sottofocamento di in Europa finalmente si è comunicato questo che si comincia a parlare di prima dovremmo studiare in casa, poi dovremmo ricomunicare. Pongono questo problema all'ordine del loro tempo. È positivo che questo problema emerga dal loro tempo. Passiamo molto lontano dalla questione chiara. Nel corso della storia della nostra classe, gli operai sono riusciti a scappare al padronato di questo tipo di lavoro pienamente dedicato alla produzione della propria vita e la riduzione dell'orario corrispondeva del resto ogni volta a un aumento della quantità oraria tale da completare la data di l'ultimo letto siamo più parlati della il problema è che questa volta l'esperimento è da tutti, ma non ha quello che accade oggi è che la soluzione di lavoro di costruito è diventata sempre di costruito. Perché il senso di lavoro umano è in modo di costruire da alcuni costruiti. Una riduzione di orario di lavoro chiaro, la parola che ora fa il tempo di questo difficile dire se gli effetti sulle strutture operate il lavoro di gruppo che si è svolto è stato avanzato e stato sempre il modello sociale è stato sviluppato la tradizione di una camicia sta oltre da un'estima e poi il quarto il problema del senso di lavoro è la condizione stessa della vita quotidiana. Il problema non è quello della situazione ma di un certo tempo che è parte della situazione che si sta analizzata gli elementi sono pensati alla presenza un po' occupata contemporaneamente le cose nuove della società umana sono sempre riuscite a essere non concorrenti siamo tutti all'inizio di un processo che potrebbe portare all'alterazione della società dal gruppo limitato e il pensiero che si traduce nel decreto di per l'operario oggi è una particolare perché arriva molto al centro il problema delle strutture del lavoro come una possibilità tecnologica per poter cercare questo non è non intendo di fare la storia 70-70, questo era proprio un po' politico, non era proprio potente fare, era stato fatto, non mi è più buono. La seconda è che mi interessa è stare in quelle esperienze che hanno la luce. Io ho visto a quello del fantastico, seguito all'intervento politico e giudiziario che ho sempre capito di quanto lavora la persona del campagna con il libro di forza di recuperare una vita ma è fatto un personaggio quando parli di operaio a un amico più giovane anche molto informato mi trovo con il quale conto una persona sperando la cambia stanza di proposta per l'operaio nel tempo del centro delle informazioni di solito è quello che sta portando una donna tutto quello che si può dire la città di cambiare il centro delle esperienze di questo vale per il punto analitico del settore tecnologico che non lo posso fare una cosa di direttore di un'istituzione di dignità dopo aggiungere la storia, popolare da quella storia che noi chiamiamo. Scavare da quella lontana esperienza politica, con il discorso teorico, una vita non si fa, che è quella di interpretare non solo la storia del mondo, ma anche di interpretare la transizione non solo di una vita, ma di una vita che è la vita. E forse anche cogliere e impegnarsi, oltre a questo discorso, Thank you. Il comunismo in quanto struttura politica, in quanto struttura economica e sociale, poteva ormai dire, non posso essere stato il sistema societario, che era un modo di pensare, tutto è quello che è stato detto, che l'Italia era legata, che vedeva che la grande la favola della vita, come comunque comunque già come ci eravamo bene quando si è iniziato a pensare che si è iniziato a pensare che si è iniziato a pensare che si è iniziato a pensare che si è iniziato a pensare che si è iniziato a pensare che si è iniziato a pensare che si è iniziato a pensare che si è iniziato a i uomini con le carte lungo andavano a creare un risultato persino al servizio delle tutte le leggi criminali che stanno sotto la terra. E con il comunismo non era possibile alcuna alleanza, perché si trattava di gente americana a creare un'autentica nazionale. Eppure, il comunismo si stava il comunismo reale del lavoro contro il lavoro, il comunismo reale contro il Stato, per milioni di operai contro il lavoro sociale, per milioni di operai contro lo Stato, il nostro potere, il nostro Stato contro il Stato, la solidarietà, l'unità contro la guerra. Il movimento del trasporto è un gruppo diverso. Che si battevano contro l'incitamento razzista dei portali si battevano contro lo stesso di portali per il Milano toccava in giro la Milano per il Giorgio ma il Giorgio tutto il mondo aveva portato per il Giorgio per il Giorgio per il Giorgio nelle nostre terre nel decreto del 200 di Nicolò sono le situazioni legali del mercato che la portò fuori dalla propria fuori dalla propria questo rapporto è soprattutto il momento in cui emerge il profilo del lavoro sociale come attore sociale consapevole del suo ruolo la fisica economica e la vita economica sociale rappresentano un momento che era maturo nella situazione di fare il lavoro di sapere se andiamo a rileggere il testo che è ricordato tanto dal segno di incollare a certa cultura di dire l'incrociamento del federalismo italiano potremo trovare molti strumenti ideologici e analitici per analizzare la transizione post-industriale che noi stiamo avvenendo se ricostruiamo l'ottica storica e filosofica della scuola che diventa operaista e soprattutto ricostruiamo un modello di interpretazione del mondo sociale che il modello operaio aveva elaborato e ci renderemo conto del fatto che il mondo sociale degli anni 80 l'evoluzione della fase operaia industriale per l'industrializzazione e per l'interpretazione del lavoro e anche il processo politico che stato avuto nel 1989 il crollo dei socialisti non era affatto il mondo operaio anzi rappresentava una linea di tendenza implicita nella sua lettura delle questioni di stato del mondo. È vero che a un certo punto il gruppo di potere operaio decide di rinunciare al contenuto più innovativo e disincantato del suo metodo analitico, per rifestare nel pieno della battaglia politica dei primi anni 70 un'ipotesi leninista che non aveva realismo politico né forza etica, e soprattutto riportava per l'operaio nell'alveo della tradizione autoritaria e terrorista del comunismo terrestre. Si trattò di un errore politico e di impoverimento del modello interpretativo, le cui conseguenze purtroppo vedono conoscere di una strumentale condizione. Ma io voglio vedere il leninismo come una delle sue politiche, quella che purtroppo diventa maturitaria a partire da un certo momento e coincide principalmente con i due grandi stati internazionali, culturali e spirituali. Una delle opzioni, non l'unica possibile, nell'ambito del campo problematico. Allora, se vi ho letto questa cosa, intanto perché era già scritta e io non l'avrei potuto dirla meglio e non la volevo. Poi non si fosse anche ma è perché poi prima di parlarvi dello specifico delle discussioni credo che qua Franco abbia colto il punto che io non dare. Intanto uno che viene invitato, prestato e visto in genere come un leader del movimento del 67 non parla, non è che la città non parla, parla come la storia, queste creative di vivere in una condizione chiara, si chiama che il 67 è l'ultimo atto o la questione provvisoria di un processo iniziato. Ma poi perché dà una definizione di una cosa molto giusta, molto bella, che io vorrei completare così. Sarkozy è stato l'ultimo dei canoni del progetto che ha annunciato questo senso che Sarkozy ha detto. E il fallimento del 68 non è dovuto alla cosa che adesso, ma è la colpa più grave della storia e della sua amministrazione. Perché il 68 sarebbe comunque fallito in tutti i modi, ma sicuramente sarebbe stato meno grave se noi non avessimo fatto quella cosa, ognuno a modo suo per cui. Cioè, se non avessimo immiserito e incasellato quel movimento e le tendenze, diciamo, i reali movimenti di classe, perché anche noi ci eravamo dentro il movimento di classe operaia, è quella la vera molla che stanno oggi. Inizio di un processo di organizzazione generale del mio posto della funzione, e oggi voi siete professori del posto loro, perché loro sono stati per cambiare, noi siamo stati, io sono stato uno dei più sono stati quattro anni prima, quattro anni prima, anni prima sono stati federali, sono stato uno degli ultimi ad entrare in un'università di elite. E mentre stavo facendo stato molti anni fa, mentre la stavo facendo mi stava cambiando la funzione di questo gioco, mi stava aprendo e stava diventando non più un luogo di istituzione della classe, della classe dirigente, della classe dirigente, con scuole, fuori di potenziale, la classe dirigente, ma cominciava a diventare strumento di promozione. Quindi la vera, quando noi dicemmo operai studenti di prima lotta, quando spasmodicamente tendevamo alla comunicazione e alla combinazione con la classe operaia, che era la forma che in quegli anni appena al proletariato, diciamo quindi il fulcro delle masse oppresse dei paesi socialisti, lo dicevamo forse con una coscienza o con una con l'illusione di essere ancora fuori dal mondo del lavoro, ma in realtà dietro a questa nuova valore c'era una confusa coscienza che già stavamo diventando la operaia, che già stavamo diventando il proprio lavoro. Ora però noi facemmo un errore che fu comico e tragico insieme, insomma, perché non ci rendemmo conto bene di quanto di nuovo, pur essendo giovane, pur avendo io avevo 24 anni, ero già prima, ma fino alla 18, 19, 20, era la stessa cosa, come dire, eravamo spavaldi e sapevamo che quello era un salto, che stavano cambiando le cose, ci rendevamo conto che c'era una novità, che c'era una... Ma interpretammo tutto, e per fortuna erano arrivati questi qua, i loro eredi, qualche anno prima di noi, a consegnarci uno strumento di lettura del reale che era meno ossificato e meno... Ma anche loro non ce l'erano risposto tutti, alcuni più, altri meno, ma la cosa che noi facevamo da loro, che noi facevamo fu quello di chiudere dentro quadri concettuali, categorie totalmente novecentesche e addirittura opzioni politiche ottocentesche, perché la rottura del movimento operaio tra socialdemocratici e comunisti avete seguito, ma è e quindi preparammo a questo movimento un futuro, una sconfitta grottesca di storia. Non penso che saremmo liberati di questo di paracuta, di questo passaggio, di questa vista, di questa italiana oggi fatto ormai. È un po' occupando il giovane e il giovane. Questa forse sarebbe ma secondo me avremmo attraversato gli anni 80, gli anni 90, gli anni 30, gli anni 90. Io sono stato tantissimo quando vado a fare il video, stato un video, stato un video, stato un video, ovviamente, ma quelli sono andati all'aria, devono darsi ancora di più per essere stati costruiti, credendo di non essere più in questo attivismo a fare questa cosa. E quelli che si potrebbero aria, si dovranno essere tutta, che si potrebbero fare più. Però è vero, quello che dico è profondamente vero, è vero che la componente creativa, naturalmente questo operaio figura molto, non è vero, la famiglia è già appassionata molto, furono la componente del movimento che si è scritto e seppero vedere più lontano gli altri. Il piano dell'analisi diede l'unica vera che io questa è una cosa autografica che non è stata io ero un praticante confuso di operario e fu solo per una serie di casi forza qua che stavo già operario che non stavo già la parte nazionale, quindi io sempre di questa cuore, una nuova questa conoscenza che ha tanto. Ma ma ho sempre, perché ho sempre avuto anche una guarda in realtà delle posizioni dal punto di vista teorico e analitico, all'analisi, all'analisi, scrivo anche dono. E credo che questa è la tradizione e i personaggi come Sandrani, che sono capaci di stare dentro questa presidenza e di darla poi con altre forze, con altre cose, questa è la ragione per la quale non si può stare delle chiedere di una, diciamo, rilettura e di scrittura di Marx oggi indicata attraverso tutte le cose che sono state scritte e tanto prima di dopo che hanno scritto un po' anche hanno scritto le cose che sono state perché le cose che sono state scritte perché sono tutti questi contributi degli anni 70-80 che apparivano all'inizio, come dire, erano diversi rispetto a quello che ho letto. Franco protesta contro il mondo che hai visto, e propone un nome che non avrà mai cultura, però insomma diciamo che è complicato, perché il principale, la sua malizia, però è vero che il concetto, diciamo, principale, il maggior contributo è stato questo. E questo è una cosa che si accomuna, è questo il concetto di composizione della classe italiana, composizionalità. Il termine composizione deriva da Marx, ma Marx non parla mai di composizione del capitale, è la composizione organica del capitale, il rapporto che è tra il capitale costante e il capitale variabile, in realtà salari, la parte del capitale che è quello che può la forza lavoro. Fare che deve capitare perché siamo investito per potenzialità delle nascite tematiche, perché questo rapporto è un ciclo che ha un tanto di titolo si dice tale importante per diventare sempre economico per più variabile che poi non si manca il testo di generale un po' di tale della società una la diciamo, genialità però della tradizione di quella diciamo il vero punto di questa loro cosa è anche se certamente loro uscivano da entrambe le diciamo le città quando nel 72-73 perché era la morte il suo titolo a cura di uno che ha lavorato per la università della strada e come si parla la nostra che ha un titolo protetto si chiama Raniero Pazzese e la ripresa del francese dell'università Pazzese e del fascismo il termine del fascismo di lupo che è quello che stiamo dicendo qualcosa di strano della tomba quando uno di quei amici che sono uno di quei dei primi collaboratori più giovani di quella di loro si viene di lui Raniero Pazzese e la ripresa e il punto sul quale è pronto di piazza la persona che realizza ha diciamo è stato questo è quello che conta non è la definizione sociologica della contraria la definizione della contraria è in qualche maniera assolutamente perché è una fiore perché è una delle due polarità sulle quali si regge il capitalismo perché io si regge su una polarità capitale-lavoro e quindi quello che è importante non è andare a vedere come il livello politico si articola sul livello sociale o come sociale, ma andare a vedere le, ecco, per come dire, la struttura, la strutturazione interna della classe, della classe della operaia ieri, oggi diremmo del lavoro precario, del lavoro precarizzato, che è la nuova forma del lavoro. Il lavoro precario in termini, ma anche il tema del lavoro stabile, anche il lavoro stabile è precarizzato. Ma non ha certamente, che qui si tendono a poco alla diminuzione della vita. Questo è, questo tipo di analisi che si fa oggi, è esattamente l'erede della, diciamo, tradizione della, diciamo, composizione. Nel primo numero, nel primo numero di Valerio Rossi, c'è il primo articolo, si chiama Lotte operaie dello sviluppo capitalistico, che è di Vittorio Poa, che è un articolo di morte, è uno dei grandi versi della sviluppo italiana, adesso è però poi era uno dei principali studenti della linea socialista dell'epoca e poi uscì e portò il più di quanto la mia una cosa che è stata persa molto rispetto al governo e però poi non era in realtà il tempo della Rossi paziente di quello che troppo la più un po' è una specie di testimonianza per i legami che ancora all'inizio Santieri era uscito dal terzo libro poi qui c'è un saggio di Daniele Santieri che si chiama Giulio Giulio che sta all'inizio della macchina di Daniele Santieri di Giulio ma poi subito dopo il tempo cioè prima la di questa cronaca delle lotte ai fotografi di Valle definizione del settore di una struttura politica di Giovanni di struttura e di due persone che ancora le portano ma soprattutto troveremo documenti lo ho toccato a cura di Romano Acquari una relazione di Romano Acquari che è un corso nuovo al Corriere dell'Istituzione insomma troverete qua già l'idea dell'inchiesta operaia usata non come puro strumento conoscitivo, ma come strumento di organizzazione politica. Sono gli stessi anni in cui un altro di tanto di politica, molto importante, non so mai, si chiamava Camillo, Camillo Montante, questi due libri, molto importanti, si chiamava Autodimensione della Vecchia, l'altro si chiama Tanto di Cittadino, e sono due libri nei quali questo metodo di ricerca viene applicato nel primo al settore italiano, la lettera, l'esercitamento di Viene, i politicani, la propria idea, la lettura, la strada. Invece il colore era è una raccolta, quando abbiamo pensato a fare il libro di Anna Gallo, siamo un modo un po' nuovo di fare un una richiesta, una richiesta fatta in forma narrativa, fatta ancora. No, ma è se poi guardate. Se guardate oggi Poste, che è il nuovo organo della Solidarietà di oggi, ha assolutamente riprende quella. Sì, però lì come cioè richiesta serve. È un po' così, cioè, allora, vi dirò, penso che tu devi chiudere le cose un po' tardi, allora, però, vi dirò in breve quali sono i caposaldi teorici, e poi faremo la prossima volta, perché parleremo di caposaldi i caposaldi teorici che vorrei offrire in quanto non era bisogno, perché allora, dal punto di vista pratico, i quaderni rossi si muovono, tra dentro o fuori di partito. In gran parte sono fatti di persone che hanno militato nella sindacalista, ma che o in persone che hanno militato nella sindacalista. Ma lì c'era solo c'erano i gruppi politici, c'erano da allora e c'era la parte della ma non erano gente che non era, i gruppi maoisti cominciavano a sorgere, i gruppi maoisti perché a livello internazionale, per esempio, si interrompe con il partito comunista sovietico, credo molto certo, fanno poco di però ci mettono un po' di anni, allora dopo alcuni anni, già per la fine degli anni 50, poi il gruppo cinese aveva cominciato a finanziare la nascita di gruppi di simpatizzanti loro fuori dai paesi militari. Però erano gruppi che non portavano un po' contatto. Io quando vado alla manifestazione del 67 del Vienna a Firenze, vedo per la prima volta, come si vede per un prodotto, non avevo più fatto la vita, ma è la storia. E per la prima volta vedo quello che è diventato un attimo che fa battaglia comunista, partito comunista, ma che sono gli stessi due rimane. E è la prima volta che vedo un attimo di uno, come il campo della politica, che è stato fatto da una ma non avevo la mia idea, forse, proprio più di lì. Allora, questa è dal punto di vista della... poi, sulle questioni pratiche del come fare, se non si può fare un ruolo, per i vecchi, di parlare rossi, alterare, non per caso, operare rossi, il suo operario verrà fuori, da questa serie... Ma se per lei non si fa? Per lei anche, a potersi la si spalda e già la superaia già pronta alla vista a spiegare come no, e adesso voglio dire in breve quali sono le scelte da usare per anni. Dal punto di vista teorico l'esperienza dei valori rossi costituisce un tentativo di ripristinare una sorta di purezza di ordinarietà metodologica marziana contro due cose. Primo, contro l'idea di chi sta offrendo, contro l'idea di diciamo, riformista, che la classe operaia debba sostenere le ragioni della pianificazione contro l'analisi del neocapitalismo di Giuseppe Rossi chiarisce che il capitalismo non è affatto un'analisi, ma utilizza lo strumento della pianificazione, ha una sua visione costruttrice che la pianificazione è uno degli strumenti della pressionalità. Quindi che se il movimento operaio deve eventualmente mantenere una sua opzione chiaro, non deve essere, ovviamente non o la pianificazione vulcanica e autoritaria dei paesi, ma non deve essere anche una caratteristica, quindi bisogna introdurre, bisogna cominciare all'interno delle lotte, cominciare a fare maturare all'interno delle lotte un modo nuovo di fare la pianificazione, di tipo, diciamo, ma il secondo punto sul quale innovano è una lettura totalmente nuova, e questo va dato in gran parte merito a loro, a gli operatori di questi teatri, una nuova lettura di questa classica e deterministica tradizione sviluppo delle cose positive, cappello dei rapporti di direzione, che messo come l'aveva iniziato Engels era una paralisi, perché anche quello dava adito a una, diciamo, lettura delle lotte operarie subordinate al capolto del sistema. Allora, il punto teorico fondamentale di questo livello è che lotte operarie e il capolto non sono integre, sono strettamente correlate. Il capitalismo risponde alle lotte operarie, le lotte operarie non sono una semplice resistenza allo sviluppo tecnico, ma sono un elemento che a sua volta determina lo sviluppo economico. Il fordismo non è stato, perché a quel punto il capitalismo decide, i capitalisti americani decidono negli anni 10, facciamo questa nuova organizzazione generale. Perché i sindacati tradizionali, gli operai di mestiere, gli operai professionalizzati, avevano cominciato a estendersi in modo totalmente corporativo, totalmente, c'è stata una storia anche del sindacato di Stato, ma quelli più nostri erano quelli tradizionali, che chiamavano A, Marcello, magari questi sindacati tradizionali, cooperativi, che hanno cominciato a fare al padronato, ci sono state lotte molto dure nell'interessante dei produttori, dei produttori della terra, eccetera. E avevano fatto crescere il padronato, avevano avuto, approfittando di una buona cultura del tutto legale, anche in questo periodo, una serie di salariali molto forte, molto pesanti. Inoltre, in qualche maniera, in qualche modo questi rappresentavano una sorta di elite dirigente che portava dietro anche gli altri lavoratori. A quel punto la distruzione della figura dell'operaio professionale comincia a diventare un obiettivo di questa elite. Non vogliono più avere a che fare con l'operaio professionale, ma questa. Quindi il fordismo è la prima, non è già la prima, ma è stata la più grande risposta del capitalismo alle lotte degli operai. Il fordismo, questa cosa. Perché viene fuori? Ma il fordismo è la risposta capitalista al più lungo ciclo di lotte del secondo dopoguerra, alle lotte cominciate appunto negli anni 70 e proseguite negli anni fino a quali si hanno tanto cambiato negli anni di 1980. Il capitalismo comincia a progettare il suo cambiamento produttivo esattamente a metà degli anni 70, quando non ne può più, quando è stufo di vedere la propria attività, per molto ferito, la propria attività all'interno delle fabbriche, impedita, resa difficile, organizzata dalla rispettiva operaria. Ora, questa idea qui, che le lotte operarie e le lotte operarie siano in continuo interscambio, che l'una agisca sull'altra, questa è una delle cose dal punto di vista del metodo più importanti delle operarie. Ed è la roba che io vi consegnerei a voi come metodo, perché è un metodo che dovrà essere applicato anche oggi, dovremmo cercare di capire un po' con voi, insomma, se vuoi essere più, noi chiunque voglia si prefigga oggi di organizzare in ma qualche maniera il lavoro precario. Bisogna capire comunque che per essere meglio di avere tutto con... No, per essere meglio, per capire, per capire comunque che ogni cosa che tu fai avrà una risposta, avrà una risposta, ma non importa, ma è ovvio, perché ti vuole la liberazione. Ovviamente l'obiettivo rimane quello, ma è un conto diverso, tutto questo serviva in maniera polemica contro i dirigenti del sì e anche del PC, però dicevano bisogna rivendicare una maggiore autorità, bisogna che i lavoratori rivendicano, bisogna che si battano per la pianificazione, ha un capitalismo, oppure che l'idea che il progresso tecnico sia un progresso tecnico, che la tecnica sia un progresso tecnico, è inevitabile, dicevano sia che l'iniziativa della classe operaia deve tenere conto del quadro tecnico di però, perché il quadro tecnico è buono per tutti, è qualcosa di progressivo che va bene sia per capitalisti che per noi. Poi discutiamo di chi devono andare. Questa è una roba fuori dal mondo, cioè il progresso tecnico è la risposta del capitalista alle tue lotte e quindi tende costantemente a toglierti spazio economico e politico dentro l'organizzazione produttiva, esattamente come la precarizzazione lo è oggi. La precarizzazione è l'arma principale che il capitalismo è riuscito, smantellato o marginalizzata la fabbrica, la precarizzazione è quello che gli serve allo Stato per non pagare i costi sociali, diciamo il welfare che paga alle altre produzioni. Come dire, infatti, per tenere ricattato il lavoratore e per abbassare il posto del capitale del capitale magari. Sì, vabbè, questo sempre che ci sia una competizione. No, non l'ho detto prima, l'ho caricato in realtà, cioè in qualche modo ci sarà. Sì, no, però nel senso che lo spirito del parole non è solo quello, cioè non è solo risposta del capitale alle persone. Al movimento, anche quando non si... Ma lavoratore inteso come soggetto? Cioè tipo come soggetto che vive, come soggetto delle persone che vivono. Ovviamente Loretta è più specificamente verso quelli che hanno uno sviluppo rapporto di lavoro, è vero che in generale siamo tutti come lavoratori, però è anche vero che McDonald's sta più attento al comportamento dei lavoratori interni. Che secondo me che sono i lavoratori esterni, cioè dei lavoratori che gli danno più profitto, diciamo, che gli altri più risultati. Cioè sono risposte comunque il lavoratore interno si presenta ancora a McDonald's nella rete del consumatore, questo è un altro discorso. Sì, ma nel senso in questo modo estrae plus valore da te perché va a vedere come ti comporti con la mancata risposta a una campagna pubblicitaria da parte del consumatore può essere una sorta di rivendicazione del consumatore dei confronti del capitale. Allarghiamolo, va bene, sono d'accordo, allarghiamolo come vedi. Allora, per come bisogni generalizzati allora, diciamo che in generale qualunque comportamento e il nostro problema oggi, io non ho nessuna risposta, però il nostro problema oggi è che siccome il processo di valorizzazione è così esteso e comprende e prevede la capacità del capitale di valorizzare, di far diventare il senso dell'economia qualunque comportamento che fa, esatto. E allora con questa roba, allora questa infatti, ma questa non è altro che la generalizzazione di quel modello che noi non avevamo già visto 40 anni fa. Il legame tra ore di lavoro e salario è un falso mito, cioè è evidente, un pregiudizio, una forma mentale, un immaginario di cui si dovrebbe operare, questo è quello che magari era le proposizioni. Vabbè, poi possiamo tagliare, perché no. Allora, io vi ho praticamente portato fino adesso, ci resterebbe da fare un po' di breve storia, la faremo se faremo un'altra volta, degli anni 60-70, cioè del dibattito interno, anche la De Rossi, tra Francesi e Tronti, poi quotazione di classe operaria di Corpopiano, rottura Continelli, il 68 dove è stato, ve lo vedete un po' questa sera. Non ci sarà una teoria dei diritti di sì, vagamente, ma non è teoria di cosa. L'unico che arriva è anche soltanto ma era teorico la camera la stessa che possiamo fare dichiarazioni più ampie erano cazzate ma capirai che non posso dire.